Ciao amici di Ludico Forum, benvenuti a questa seconda parte della nostra top 10 di sempre, mia e di Pixel Deb che mi ha ospitato nel suo canale, quindi mi raccomando andate su YouTube, cercate Pixel Deb, iscrivetevi, attivate la campanella, guardate i video, mettete like, condivideteli e aiutate il suo canale a crescere. Deborah ogni tanto mi invita per fare queste lunghe chiacchierate, queste lunghe escursioni nel mondo dei videogiochi, come al solito vengono delle chiacchierate enormi e quindi ovviamente questa nostra top 10 dei giochi ai quali siamo più legati nella nostra vita è durata insomma tantissimo e quindi questa è la seconda parte. L'altra parte, la parte precedente, la trovate sempre nel feed di Ludico Forum e che abbiamo pubblicato la scorsa settimana. Detto questo, io penso che non c'è altro da aggiungere se non ringraziare Deborah ovviamente per la partecipazione, per l'invito e per avermi invitato me, perché ovviamente ero io l'ospite in questo caso, e soprattutto se lì dovesse ricapitare non ci tireremo indietro insomma. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Nel prossimo gioco, nel mio prossimo gioco, che è praticamente il numero 6. Che è il numero 6, qui io non c'è direttamente una bambina che muore, ma secondo me ne sono morte tante. Ah beh, probabilmente sì. Esatto. E parliamo di The Founder of the Crown, cioè ovviamente un capolavoro assoluto della cinema. Allora, dobbiamo precisare delle cose. Questo è un gioco della Cinemaware. Io ero innamorato dei giochi della Cinemaware. Però bisogna dire una cosa sui giochi della Cinemaware. Che facevano tutti cagare. Però erano bellissimi. Cioè, ero innamorato, ma facevano tutti cagare. È stupendo. Esatto, perché di fatto Defender of the Crown, il gioco era una cagata. Cioè, a parte che era multievento e va bene, ma la parte strategica era una stronzata. Vincevi a mani basse, cioè non. Difficoltà a zero. Ma che cos'era bello di Defender of the Crown? La grafica, tutta quella parte. A parte che, cioè, tu metti un dischetto e tappare la scritta Defender of the Crown con tutti i colori che si muovono, no? L'oratura, praticamente i riflessi d'oro sulla scritta, che per te era già fantascienza. Perché ricordiamoci che prima dell'Amiga c'era il Commodore 64, noi veniamo da una, cioè lì c'era un salto generazionale talmente potente che proprio ti dico levate. E quando tu tappare la scritta Cinemaware e tu associ videogioco, grafica da paura, film, cioè era automatico, no? Cioè nel senso, ma era voluta come cosa. E ti trovi di fronte a un gioco come questo che era visivamente un capolavoro. Cioè, cazzo, 32 colori usati come se ce ne fossero stati 400 milioni. Cioè, una cura nel dettaglio della parte visiva che era bellissimo da vedere, una cosa incredibile. Se voi considerate che c'è una scena quando tu fai l'attacco al castello nemico, c'è una scena dove tu sei entrato nel castello e fai a spadaccinate con altri, cioè alla fine uno spadaccino contro un altro spadaccino con altri due spadaccini che si muovono nello sfondo per far vedere, guarda, sì, c'è una scena di battaglia, ma in realtà non abbiamo le risorse per farne così tanti. Però e tu vedi questi qua che si muovono e dietro nel muro si vede l'ombra gigante dei due spadaccini che stanno combattendo. Cioè, ma dove l'hai mai vista una cosa del genere? Cioè, non io non l'avevo mai vista una cosa del genere. Ed era bellissimo. La scena in cui tu con la catapulta devi distruggere il muro del castello era un quadro. Cioè, come cazzo ti... Cioè, è difficile da spiegare perché oggi siamo abituati a vedere le cose ultra belle. Però Defender of the Crown su Amiga 500, ragazzi, stiamo a parlare della preistoria della preistoria, non è che stiamo a parlare della Nvidia, GeForce o cose del genere. Quindi voi immaginate, a parte la qualità dell'Amiga così dal punto di vista grafico, e in più queste persone, questi artisti che erano in grado di tirar fuori della roba che era fuori di testa. E poi c'era la famosa animazione quando tu prendevi il castello e quindi prendevi anche la dama, no? C'era sta scena di loro due in silhouette che si vedevano, si avvicinava a lei che gli cascava il vestito e poi ovviamente immaginavi tutto il resto, no? Cioè, vabbè, dopo la fatica. Allora, la soddisfazione, scusa. Tra l'altro, quando tu conquistavi tutta l'Inghilterra, perché il gioco non l'ho specificato, mi sono fatto prendere dall'enfasi chiaramente, però il gioco era un gioco strategico dove tu praticamente insieme ad altre quattro casate dovevi conquistare e unificare tutta l'Inghilterra, tutto il Regno Unito, diciamo così. E in mezzo a questa tavola completamente bianca che tu dovevi ovviamente colorare conquistando, c'era la foresta di Sherwood con Robin Hood che ti dava diciamo, dei bonus se tu lo interpellavi, non so poi cosa ti chiedeva in cambio. E in più ogni tanto c'erano le cospirazioni, cioè tu vedevi, partiva una scena di sti tizi che stavano dentro una locanda che con i coltelli puntati sul tavolo che sghignazzavano, e tu dicevi, e capivi che ti diceva che c'era un potenziale complotto contro di te. E di solito quando succedevano queste cose o avevi un bonus o un malus sulle risorse che avevi. Le risorse quali erano? Erano dei cavalieri e dei soldati. Questo tu c'avevi. E per resto era come risico. Cioè, se tu c'avevi 3 cavalieri e 20 soldati e andavi su quello del vicino e lui c'aveva un cavaliere e 12 soldati, cioè avevi vinto. Cioè, c'era tutta una cosa che faceva vedere la statistica, ma tu avevi vinto. Cioè, vincere era una cazzata. Proprio era il gioco sfida zero, completamente zero. Però tu arrivavi alla fine del gioco che c'era sto, dove la bambina muore naturalmente, dove c'era sta scena di sto questo panorama bellissimo col fiume, la bambina insomma, che aveva avuto con la tipa che si è spogliata una certa, tra l'altro, esatto, che muore pure quella, poi morono tutti, ma sì, muoiono tutti. Quindi c'era questo quadro bellissimo che con la scritta The End, e tu hai finito il film bellissimo. Cioè, non so, io penso che è impossibile che non lo conoscete. Cioè, se ci avete avuto Amiga, ce l'avete avuto, secondo me. Non mi deludere, Deborah, ti prego. No, io lo conosco tantissimo. C'ho presente quando fanno la giostra, tipo sto pezzo qua. Brava, brava. C'ho presente. Brava, sì. Brava, brava, è vero, sì. C'ho presente i colori, come dici te, assolutamente. Quindi io di Defender of the Crown ho presente questo che stiamo vedendo in questo momento. Quindi il momento giostra. E i colori, come hai detto te, che sono stati sfruttati veramente al massimo, e questa scena quasi da film, no? Di questo cavaliere che si trova ad affrontare l'altro cavaliere davanti, così, insomma. Ho presente il gioco, non l'ho mai giocato, onestamente, però ho presente, sì. E però non sapevo bene il de che, cioè, nel senso, io avevo presente questa cosa della giostra, quindi pensavo che fosse tutto così, e pensavo, mazza che palle. No, e invece mo adesso, tra il tuo racconto, le immagini che abbiamo visto, una certa, abbiamo visto pure la donnina che sarà mezza snudata, si sono baciati, hanno fatto cose, e quindi insomma, cioè, comunque è veramente una storia di conquista dei territori, sì. Poi c'era il pezzo del castello, ecco, questo qua insomma abbiamo già visto. Quindi sì, non conoscevo tutto il resto. Avevo presente, insomma, queste immagini ultra colorate della giostra e questo. Però pensavo fosse quello il gioco. No. Non pensavo ci fosse altro. No, da quello è stato interessante quello scoprirlo. È un evento che succede ogni tanto, oppure organizzi tu, perché i tournament servivano per... Oh, forse... Ecco, lo Robin Hood, esatto. La foresta di Sherwood, ecco, lo vedi. Cioè, nel senso, comunque, allora, è un gioco strategico in teoria, poi alla fine è un gioco multievento, perché poi so l'evento in cui devi buttare giù i muri, l'evento in cui devi entrare nel castello, poi c'è l'evento della giostra, come dici tu, e poi ci sono tutte altre situazioni, però è poca roba, cioè finisce lì il gioco, sono quelle 3 cose. Quindi tu considera che queste 3 cose si ripetono a manetta tutto il tempo. Il problema è che chiaramente, cioè, non chi se ne frega, cioè. Forse sai cosa, avendo sfruttato tanto lo spazio con quei colori meravigliosi, quelle scene di battaglia lì alla giostra, poi la varietà di gioco non poteva essere tanta per una questione anche di spazio, probabilmente. Guarda, io qui faccio una riflessione, diciamo, che potrebbe essere un po' fraintesa dai super fan. Cioè, in realtà, secondo me, cioè, a Cinemaware del gioco in sé gliene fregava fino a un certo punto, perché tecnicamente i giochi non erano belli, ma anche It Came From The Desert, no? Che è un gioco, sì. Cioè, un gioco che io ho amato tantissimo, no? Però da piccola mi faceva paura sta mega formica. Faceva paura, infatti. Però se tu ci pensi, il gioco era brutto, cioè era fatto male, perché loro puntavano più tutto sul lato estetico. Cioè, tu pensa all'introduzione di It Came From The Desert. Quella è bella. Che c'è praticamente sta asteroide con la voce che racconta. Con la voce, sì. Oh, sì. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Questi stavano anni avanti da sto punto di vista. Anche sì. Infatti è proprio Cinemaware. Esatto. E poi dopo i giochi erano delle puttanate. Cioè, erano tutti brutti. Cioè, difficilmente il gioco. Cioè, io li giocavo comunque, a me piacevano, mi ero innamorato. Però non posso dire che erano bei giochi, cioè non lo posso dire, perché comunque erano tutti giochi con degli eventi limitati, con delle situazioni un po' ripetitive, perché loro secondo me puntavano proprio più su quello che sulla programmazione del gioco. E ma questo... calcola, It Came From The Desert, siccome ero piccola, era tutto in inglese, quindi capirà, non capivo niente di tutto quello che stavano dicendo, e quando arrivava la formica mi cagavo sotto, quindi l'ho giocato pochissimo, perché tra l'inglese, io che avevo paura... però ce l'ho presente assolutamente. Sì, sì, sì, secondo me, cioè, oggi poi so che stanno facendo una specie di remake da qualche parte, quindi presto ne sentiremo riparlare. Sì, hanno fatto, è uscito qualche mese fa, l'avevo messo nelle uscite settimanali. Ah, ok, ok, sì. Su Steam, cioè, se volete. Allora, vabbè, può essere che l'ho scoperto tramite il gruppo. È uscito settimanali, può essere. Esatto, Debole, quello ma l'ho rivenduto come una cosa che so io, capito? Vabbè, comunque non so. Allora, Simone dice come i giochi della Frogware praticamente che fanno cagare, no? Della Cinemaware ho amato It Came From The Desert, dice Astolfo. Comunque It Came racchiudeva tanti stili di gioco, sì, era un'avventura, poi diventava uno first player, come cazzo, sì. FPS. Sì, allora, no, però guarda, in realtà tutti i giochi sono giochi multievento. Nessun gioco era veramente solo una cosa piuttosto che un'altra. Il problema è che tante cose, più tutta la cura grafica, secondo me alla fine non veniva fuori un lavoro fatto bene, cioè oggettivamente. Poi quando un ecco il Game from the Desert devi sparare con la manina o roba, cioè è una cosa terrificante, dai ragazzi, oggi sarebbe improponibile, ma non oggi, cioè in realtà era improponibile pure allora, però eri affascinato dalla bellezza di sti giochi, cioè. Beh, sì, guarda qui quando stanno questo io ero innamorato di sta scena. Guarda che cioè, bello qua. Obiettivamente, cioè, molto scenico. Cristiano scrive: mi piacevano molto, ero innamorato dei loro giochi, però facevano cagare. Simone Pizzi 2023. È così, è la verità, è così. Ok, passiamo al mio sesto gioco e andiamo al l'altro mio JRPG preferito che abbiamo giocato da poco in verità nelle pomeriggi SNES, ossia Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Questo è il mio JRPG preferito in assoluto proprio. Ho portato poi sul mio canale un bel po' di tempo fa uno speciale di 99 piani che è una cosa, diciamo, a parte nel gioco, che è molto divertente. E quindi praticamente questo è il classico JRPG uscito per SNES dove noi siamo un guerriero e la città viene minacciata dai mostri e ci sono questi quattro sinistrals che sono questi cattivoni che poi alla fine sono i boss finali che vogliono distruggere il mondo e quindi noi dobbiamo andare all'avventura e aiutare tanti villaggi a liberarsi dai vari boss che distruggono tutto, tra terremoti, villaggi distrutti, andati a fuoco, gente che morde fame, eccetera eccetera. Troviamo vari personaggi che si uniscono al nostro team, quindi c'è il classico, la ragazza che cura ed è maga, poi c'è anche un elfo, una certa, che per lui è magico. Questo è un altro personaggio che si unisce, si chiama Guy, questo biondino qui. Quindi sono vari personaggi e quindi alla fine poi si arriva, insomma, a questi quattro cattivoni e l'obiettivo è sconfiggere, quindi liberare il mondo dalle forze del male. Cosa c'ha di differente questo JRPG confronto a tanti altri? Secondo me ha determinate cose, ossia è abbastanza lineare, nel senso, all'epoca era uscito Chrono Trigger, altro JRPG famosissimo, molto più di questo, dato che i disegni poi sono di Akira Toriyama, che è molto bello anche quello, assolutamente, però a una certa ti perdi, perché non è lineare, col fatto che lì viaggi avanti e indietro nel tempo, se non hai una guida, dopo un po' non sai dove andare, che cosa fare. Sto provando la stessa cosa, sto giocando al primo Breath of Fire sulla Switch, che ci sta l'emulatore dello SNES, proprio della Nintendo, che c'è l'abbonamento, ci sto giocando. E è la stessa cosa lì, io devo seguire una guida perché non essendo lineare come gioco ti perdi, dopo un po' non sai più che cosa devi fare, quindi è un peccato. Mentre questo qui, la cosa bella è che all'inizio è lineare, cioè nel senso, adesso c'è questo dungeon, poi sconfiggo il boss lì e quindi posso passare lì per arrivare al secondo villaggio, mi dicono qual è il problema, devo andare a quella torre, vado a quella torre, sconfiggo quella torre, ho la chiave per passare e posso andare al villaggio successivo, eccetera eccetera. Quindi non ti perdi, che all'epoca, ripeto, con tanti JRPG invece ti perdevi, eri abbandonato a te stesso. Quindi non ti perdi essendo lineare, però poi a una certa in verità sblocchi sia la nave e più avanti sblocchi una sorta di mongolfiera, insomma una cosa per volare, e quindi poi tra warp, quindi sblocchi l'incantesimo di oddio, warp. Teletrasporto. Sì, che però puoi visitare soltanto paesi che hai già visto. Invece poi puoi andare sott'acqua, perché puoi andare sia sull'acqua, sott'acqua, che puoi volare, eccetera, eccetera, per raggiungere altre parti del gioco. Però alla fine non ti perdi, perché il mondo è abbastanza grande ma non immenso e non è dispersivo. Quindi quella secondo me è una cosa che me l'ha fatto sempre molto apprezzare. Poi ti affezioni tantissimo ai personaggi, perché al di fuori del protagonista, che è un po' piatto, come succede anche ai vari Dragon Quest, che il protagonista neanche parla, è molto piatto. Sì. Però tutti gli altri personaggi sono caratterizzati molto bene. C'è sta uno simpaticissimo che si chiama Deckard, che però non c'è in tutto il gioco, c'è solo in una parte. È bellissima la grafica, le musiche sono stupende, la difficoltà dei combattimenti va bene, non devi stare a livellare le ore, impazzisci, perdi tempo, no, succede soltanto un'unica volta verso l'inizio del gioco, che c'è un boss che è un ragno e che è troppo forte confronto al tuo livello, e quindi devi stare a perdere ore per livellare. Però quando lo fai la prima volta è una palla, perché ci perdi una vita. Quando lo sai, fai in modo che all'inizio del gioco combatti tanto sempre, che quando arrivi a quel ragno diventa fattibile, non ci devi perdere poi una vita, insomma. Il gioco è abbastanza lungo, come tutti i JRPG, come vi dicevo prima. È solo in inglese, perché non è mai arrivato in verità in Europa. Mi sembra che sia solo in Giappone, negli Stati Uniti, e se non sbaglio solo in Germania, quindi in tedesco. Però al di fuori della Germania, in Europa non è mai arrivato, se non erro. E quindi da giocare in inglese, però un inglese molto semplice, onestamente non è difficile come inglese, anche se c'è tanto parlato, insomma, come tutti i JRPG. Questo è l'elfo che vi dicevo che si unisce, questo qui Altea, quindi i capelli blu. E l'altra cosa bella, a mio avviso, di questo gioco è sia il fatto che il combattimento è quello classico a turni, quindi scegli che cosa utilizzare, quindi a turni strategico, molto bella anche questa cosa. E c'ha questo bonus dei 99 piani, dove praticamente ci puoi arrivare soltanto volando, in un isolotto, dove tu devi fare questi 99 piani, quindi tu parti praticamente da zero, da livello zero, con solo 10 pozioni. E tu fai questi piani dove devi trovare la scala per andare al piano successivo, dove non puoi salvare, quindi tu devi soltanto riuscire a sopravvivere sfidando questi 99 piani, dove questi nemici diventano sempre più potenti, quindi livellano anche loro, diciamo. E quindi ti tocca comunque combattere, perché sennò rimani troppo indietro. Però trovi tantissimi upgrade, diciamo, come armi, come armature, nei vari bauli che trovi in giro in questi piani. E una volta ogni tanto trovi anche il modo per curarti, che però è nascosto. Quindi è molto divertente la sfida dei 99 piani, perché non è facile assolutamente riuscire a farlo. Io ci sono riuscita soltanto barando, ossia giocando su emulatore. Nel gioco vero puoi salvare soltanto nella chiesa, come succede nella maggior parte dei JRPG. Invece con l'emulatore puoi salvare quando ti pare, quindi io salvavo, che ne so, al piano 64, e se morivo ricaricavo, insomma. E quindi sono riuscita ad arrivare alla fine dei 99 piani, però barando, perché sennò è veramente una mission impossible. E se riesci a fare tutti questi 99 piani, alla fine ti dà delle armi che puoi utilizzare poi nel gioco, che sono potenti, insomma. Quindi io, questo per me rimane il JRPG più bello in assoluto, e è un genere che a me piace tanto. I JRPG ne ho giocati tanti, e però nessuno ancora l'ha mai superato, a mio avviso, questo qua. Tu, Simone, lo conosci? Allora, no, non lo conoscevo. Però diciamo che il fenomeno, quello dei personaggi muti, cioè, sì, su Chrono Trigger, mi pare pure su Zelda, no? Pure il Link mi pare che è muto. Sì, pure lui mi sembra che non parli mai, sì. Tra l'altro condivido con te la questione dei Chrono Trigger, cioè nel senso che io l'ho giocato 5-6 volte e arrivo a un certo punto in cui mi perdo, cioè proprio è... Sono stupido io, cioè lo ammetto, perché poi dai, dimmi che ti perdi nel futuro quando c'è il robottino. Allora, non mi ricordo. E dopo non sai che fa, perché io là mi perdo. Non mi ricordo dove mi perdo, però mi ricordo sì che nel futuro, nella città distrutta. Cioè, sì, tutto sì, distrutto. Nel futuro triste. E poi è comunque hai fatto già un pezzo del gioco, cioè, ma non è mica che ci arrivi subito, insomma, quindi... No, no. E io lì mi fermo, cioè, proprio, ma due o tre volte, cioè, nel senso, alla fine ho detto, come hai detto te, un giorno lo farò con una guida, perché poi diventa una questione. E io l'ho fatto insieme a Gabriel, perché lui l'aveva già finito, e gli avevo detto, guarda, io dopo il robottino mi perdo. L'ho fatto con lui, si è perso pure lui, abbiamo dovuto comunque, cioè, guardare una guida per andare avanti, perché poi ti perdi, fai avanti e indietro nel passato, nel presente, nel futuro, 700 milioni di volte, non sai dove devi andare, non sai che devi fare. No, infatti a un certo punto diventa fastidioso, devo dire, però il gioco sì, è bellissimo, molto bello, però secondo me si perde lì. Invece questo lo proverò, tra l'altro, vabbè, non si potrebbe dire, però insomma, comunque, no, in realtà si può dire, perché non è che c'è niente di male, se cercate comunque la maggior parte di questi giochi hanno le traduzioni per le ROM, insomma, se avete la ROM regolare, cioè nel senso voi avete il gioco, diciamo che si trovano, per gli emulatori si trovano anche le traduzioni in italiano, ma di molti non so se di questo l'abbiano mai fatta, onestamente, ma non mi sono mai posta il problema. No, però lo dico magari per tutti coloro, perché comunque Chrono Trigger c'è, i Final Fantasy vecchi ci sono, quindi insomma. Mm-hmm. Però questo forse essendo meno famoso confronto a Chrono e a Final Fantasy, non lo so se l'abbiano mai fatta, onestamente, una traduzione. Però sì, questo per ora non è stato ancora mai superato per me come JRPG. Bellissimo. Va bene, andiamo avanti. Quindi il quinto posto di Simone. Allora, io il gioco è semplice, perché penso che per quelli della mia generazione che hanno avuto un Commodore 64 era automatico, che era praticamente International Soccer di Andrew Spencer. Però qui, più di parlare del gioco, che di per sé che c'è poco da dire, c'è l'aneddoto, chiaramente. C'è l'aneddoto perché... Allora, quando uscì la pubblicità del Commodore 64 in Italia, anzi... mettiamola così, la prima pubblicità che vidi io era la pubblicità del Commodore 64 e del Commodore VIC-20 insieme, cioè venivano presentati come due computer praticamente uguali, solo che uno un po' più potente di quell'altro. Quindi praticamente che succedeva? Che ti faceva vedere Commodore VIC-20 e Commodore 64, giochi incredibili, e ti faceva vedere tutto un elenco di giochi, compreso International Soccer, che chiaramente non c'erano su VIC-20, non ci potevano essere, perché VIC-20 era proprio non solo più limitato proprio come macchina, ma cioè non aveva gli sprite, non aveva tutta una serie di questioni di grafica iRes, non c'era niente, insomma. E siccome il mio primo computer, quindi dopo l'Atari del 2006, è stato il VIC-20, computer che amerò per sempre, perché comunque è il computer che mi ha insegnato, mi ha portato alla programmazione, mi ha fatto fare tante cose divertenti fondamentalmente, però io cercavo sto cazzo di International Soccer che non c'era, non esisteva, perché ovviamente il gioco era solo esclusivamente per Commodore 64. Quindi quando l'anno dopo, poi alla fine a Natale mi regalarono il Commodore 64, io avevo capito che me l'avrebbero regalato, quindi già me ero rimediato International Soccer di Andrew Spencer, che era il gioco per eccellenza, il gioco del calcio per Commodore 64. E se noi consideriamo anche da dove venivamo, quindi ovviamente dall'Atari 2006, massimo l'Intellivision, che c'era un gioco di calcio tra virgolette più realistico, questo era un gioco super realistico, cioè questo era il fotorealismo dei giochi del calcio allora, perché un po' c'era la prospettiva, c'erano i personaggi colorati. Poi dopo, se tu lo guardi oggi, fa ride, no? Però questo è stato il gioco di calcio per tantissimo tempo, cioè nel senso, penso che tutte le persone, che gli amici con i quali facevamo le chiuse che non finivano mai, facevamo i torneoni proprio, cioè, Senti, domanda tecnica, ma c'erano solo squadre nazionali o c'erano anche a Roma, Juve? Allora, non c'erano squadre, il gioco era proprio basico. Tu c'avevi player 1 e player 2. Il viola contro i roi azzurri. No, sì, tu hai visto all'inizio, l'ha fatto vedere. Tu praticamente c'erano i due personaggi grossi all'inizio, prima di iniziare. Tu decidevi il colore della maglietta e basta, non il colore dei pantaloni, solo la maglietta. I pantaloni erano sempre neri. Sempre neri, so. Esatto, e quindi tu dicevi, era l'Italia contro la Russia. Cioè, nel senso, eri tu che decidevi la Roma contro la Lazio. Però erano i colori del Commodore 64, quindi non c'era il celeste, c'era il blu, cioè, capito? Tanto per farci capire, no? E fondamentalmente questo è. Poi dopo sono uscite diverse evoluzioni dove diciamo, potevi cambiare pure il colore dei calzettoni, pure i pantaloni, e poi piano piano sono usciti quelli con le squadre e via dicendo. Però diciamo la versione originale di Andrew Spencer era questa, cioè nel senso c'era giocatore 1 contro giocatore 2, basta, non c'erano tornei, non c'era niente. E una partita quanto durava più o meno? Di poco, poco, penso in totale durava 2-3 minuti, cioè. Ah, proprio breve. Sì, beh, in linea massima, te devo dire la verità, non me lo ricordo, però non mi ricordo che durassero tanto, insomma, anche perché poi c'erano tutti e due i tempi, poi i giocatori entravano, i giocatori uscivano, poi ecco, piano piano, quando andavi avanti, dopo quelli un po' più sofisticati, che iniziavano a averci sempre più animazione, c'era la tipa che te portava la coppa se vincevi, insomma, erano tutte cose così. E alla fine, te devo dire, il bello di sto gioco è che veramente ti ha portato via le ore, perché poi dopo... c'è dei trick così abbastanza semplici con i quali poi alla fine vincevi sempre, segnavi sempre le partite. A un certo punto, quando hai capito come funzionavano, finivano praticamente tipo 10-11 così, insomma, perché alla fine era difficile, insomma, non fare gol. Tra l'altro fecero una mod anche becera di sto gioco, perché questo gioco fu moddato in tantissimi modi, ossia praticamente il gioco era sempre lo stesso, solo che cambiavano gli sprite. E tra una delle versioni ce ne fu una che ricordo tantissimo, che magari era fatta con le buone intenzioni, magari pensando, che ne so, alle Paralimpiadi, però poi alla fine veniva fuori una cosa ridicola, cioè nel senso un po' triste, che erano praticamente tutti stavano in carrozzina e c'era il portiere che invece stava con le stampelle, quindi lui quando si buttava si tirava con queste stampelle, cioè faceva ridere, era una cosa un po' ridicola, insomma, diciamo così. Però il gioco sono state ore e ore, cioè voi dovete immaginare comunque la grafica dei giochi di calcio fino ad allora, cioè era miserrima praticamente. Invece tu c'avevi comunque il campo verde, vedi la prospettiva, perché comunque le linee sono fatte in prospettiva, comunque le linee sono quelle giuste, cioè nel senso non so, due linee in croce giusto per, c'è il pubblico, ci sono gli effetti sonori, c'è la palla che rimbalzava tra virgolette in maniera realistica per l'epoca, quindi il gioco, vedi, se ne vanno e poi dopo ritornano, insomma, fine in primo tempo, sì, questo. Immagino di sì. Oppure se sono stufati e se ne sono nati e basta, è finita la cosa, si sono riposati. Ah no, qui mi sa che tipo che hanno cambiato maglie, no, tipo hanno vinto, vedi la donnina che ha la coppa, hanno vinto e lei gli porta la coppa, insomma. Hanno vabbè. Vinto quelli che la maglia blu quando poco fa era azzurra, però dettagli. Esatto, ma sì, lo stai a guardare il capello, insomma. Io pure vado a vedere questi dettagli. Comunque ecco, questo è stato il gioco con cui quelli della mia età ci hanno passato tantissime ore, a questo è Track and Field, naturalmente, che era il gioco quello dell'Olimpia. Track and Field pure io ci ho giocato tanto. E, però ecco, ho detto, ma al di là di tutto, comunque l'aneddoto che ci tenevo a raccontare, insomma, era questo, che c'era questa pubblicità: Commodore V20 e Commodore 64, incredibili colori, ci si studia, si gioca, visto? Perché poi dopo te lo vendevano come una cosa che tu ci potevi studiare, no? Tutti i genitori. Vabbè, certo, se no i genitori non te lo compravano. Esatto, che poi è una cazzata incredibile. Io penso che mio padre, quando mi ha regalato il V20, mi ha detto: così ci studi. Poi dentro le serie lo sapeva che stava di una cazzata pure lui, no? Perché anche se la percezione allora del computer era diversa, cioè nel senso, comunque pensavi veramente che il computer fosse una cosa super futuristica, avveniristica, che quasi magica, che faceva le cose da solo, capito? Perché per esempio c'è Carlo Sant'Agostino che racconta sempre la prima volta che fece una grafica su Spectrum, che poi lui lavorò per TGM, fecero le riviste su cassetta e tutta una serie di cose. Io quando ho fatto la prima volta ho fatto queste cose, sono andato a mio padre, gli ho fatto guarda che ho fatto col computer, e mio padre mi ha risposto: vabbè, ma che ci vuole, ha fatto il computer, cioè capito, c'era questa percezione che era il computer che faceva le cose, capito? È il computer che fa tutto, esatto. E niente, questo è il mio aneddoto col mio gioco, insomma, al quale sono ancora oggi. È il tuo quinto posto. No, sì, ma per il cuore, per il cuore, non per il gioco in senso. Allora, Mattia dice ci ha giocato anche lui International Soccer. Ed è arrivato l'altro Mattia. Buonasera Mattia, buonasera. Allora, vado al mio quinto posto, che è quello che ha detto Nico. Gioco che abbiamo fatto in live quest'anno, poi abbiamo fatto anche il seguito. Ossia BioShock. Questo, vabbè, l'ho messo subito proprio nella mia lista, senza pensarci proprio 3 nanosecondi. E che dire di BioShock? Altro gioco che conoscono anche i sanpietrini. C'è da dire che quando era uscito su Xbox 360 ho scaricato la demo e non mi aveva convinto. sono rimasta un po' perplessa. Fortunatamente poi le persone possono cambiare idea e quindi poi ci ho giocato ed è stato un grandissimo amore e ho giocato a tutti e tre i BioShock, però il primo secondo me rimane il migliore in assoluto. Ho giocato quindi la prima volta su Xbox 360, poi ho giocato la remastered sulla PlayStation 4 e poi l'ho giocato con voi qui sul PC, quindi con la graficona da PC me lo sono goduta ancora di più. E niente, è sempre divertente come la prima volta, c'ha un'atmosfera unica, questo gioco secondo me è uno di quelli con l'atmosfera più bella e riuscita in assoluto. Le musiche anche sono fantastiche, si vede che a me la musica è fondamentale, ogni volta dico le musiche sono fantastiche, si vede che è una cosa importante per me la musica. E niente, adoro i Big Daddy, le sorelline, ammazzare tutti i replicanti qua che sono tutti impazziti. I ricombinanti, io e Gabriel a un Halloween ci siamo vestiti da ricombinanti, è stato divertentissimo e adoro usare le varie magie, insomma, che piano piano lui riesce a sbloccare. Poi abbiamo trovato il baghettone, anzi l'ha trovato Gab, il baghettone, quello lì che se gli tiri i cadaveri con la telecinesi gli fai più danno che a sparaglie anche ai Big Daddy. E quindi questo gioco è tutto, adoro la filosofia di Andrew Ryan, è bellissima, secondo me andrebbe studiata a scuola la filosofia di Andrew Ryan perché è veramente interessante e non, magari non condivisibile ma interessante, e quindi è tutto veramente stupendo di questo gioco. Questo è un altro dove posso usare la parola capolavoro secondo me, perché anche questo secondo me non ha difetti. Il primo secondo me non ha difetti, è perfetto in tutto, anche se abbastanza lungo, non annoia assolutamente, anzi quando lo finisci ne vuoi ancora. E il secondo è carino, però secondo me è meno riuscito del primo, col fatto che magari si gioca come Big Daddy e quindi la cosa è un po' più lenta, diciamo, però è comunque interessante anche il secondo. A me il terzo non ha fatto impazzire, anche se so che a tanti il terzo è il preferito, Infinite, perché secondo me non è BioShock, cioè nel senso è bello come gioco ma non è BioShock, cioè BioShock per me so ambientati sott'acqua, Big Daddy e roba simile. Lì in cielo, non mi ha fatto impazzire onestamente. Mi è piaciuto il gioco, sì, però secondo me non è BioShock. Infatti anche con voi in live abbiamo fatto il primo e il secondo e il terzo l'ho rimandato onestamente, anche se l'ho giocato solo una volta, mentre gli altri li ho giocati tre volte, e quindi magari potrei dare un'altra opportunità anche a Infinite. Però anche la storia non mi ha fatto impazzire, per quanto Elizabeth sia un bel personaggio assolutamente. Però sì, questo gioco ragazzi è fantastico veramente, non riesco a trovargli il difetto e quindi assolutamente non poteva stare più in basso del quinto posto questo qua, proprio no. Te Simone l'hai giocato? Sì, ho giocato il primo un po', però mi metterà troppa angoscia. Lo so, stasera sono un po' strano. Oggi magari lo giocherei tutto tranquillamente. Però ti ho detto: il problema è quando incontri in che fase della tua vita. Perché io purtroppo ho avuto magari dei momenti un po', come posso dire, un po' delicati, no? Che magari comunque non ero psicologicamente proprio all'altezza, magari di affrontare determinate cose, e quindi magari non l'affrontate. Oggi magari non me ne fregherebbe niente, lo giocherei. Perché io poi l'ho seguito le live, quindi a me il gioco mi piace, cioè il carisma del gioco è incredibile, anche comunque la creatività della parte narrativa, di questa città distopica, così insomma, devo dire che figo, sì, figo. Oggi forse, ecco, diciamo che è una di quelle cose che mi riprometto nel 2024 di dedicarmici, non prima perché purtroppo c'ho altri appuntamenti, diciamo. Però sì, comunque. Ma calcola che cioè io ci gioco io tranquillamente, quindi non... Sì, ma a me la cosa sono abbastanza cagasotto, no? Come... Sì, ma non però è... questi qua onestamente ci gioco proprio tranquillamente, no? Non fa paura, non spaventa. Anche i Big Daddy alla fine si sconfiggono senza troppe problematiche, insomma. E al massimo se muori comunque ti fa rivivere lì vicino, il Big Daddy magari non lo devi rifare da capo, ma quello che gli avevi tolto continui solo ad ammazzarlo e basta, capito? Perdi solo un po' di soldi, una cosa simile, niente di che. Quindi sì, dai, questo secondo me non è tranquillo, nel senso è confusionario perché di ammazzare 700 milioni di cose, questi che ti corrono addosso, ti ammazzano, eh? Ci sono quelli lì impazziti che ti tirano la roba, sì, però cioè, l'atmosfera è bella ma non è inquietante a mio avviso, non fa paura. Diciamo che non è la paura, la sensazione, perché poi che ne so, io comunque ho giocato Half-Life, cioè vedi, alla fine Half-Life su alcuni punti ti caghi, insomma, è molto frenetico, è molto pauroso, no? Per certe cose, perlomeno lo era allora. E che so, cioè, per esempio, quando giocavo al primo Doom, al Quake, insomma, alla fine cioè, non è quello. A me la cosa delle sorelline che mi ha sempre un po' disturbato psicologicamente. Però io le salvo tutte, l'ho sempre salvato. Giocavo 3 volte e le ho sempre salvate tutte, mai consumata una, sempre salvate. Forse tutte. Perché quindi io magari. Questa cosa ti fa bene, capito? Perché le aiuti. Forse io questa cosa, che magari la prima volta che l'ho fatta, magari cioè, nel senso, magari ho fatto la scelta opposta. E questa cosa mi ha disturbato, capito? Cioè, nel senso, sono sentito. Vedi che sei sensibile. Sono sensibile, io sono un orso buono in realtà. Un orso buono. Allora, intanto Simone Nigi dice: fagli male Mr. B, fagli male. Allora Stolfo dice: bellissimo BioShock, anche per me le musiche sono fondamentali. Sì, sì. Beh. Io nei film, nei cartoni, anche nei videogiochi, la parte sonora per me è veramente fondamentale. Mattia dice: ha solo un difetto, la fine è cortissima. Sì, il boss finale è abbastanza rapido, però poi il finale buono è bello. Il finale cattivo che io ho visto poi nei gameplay, insomma, era più triste. Il finale buono invece è molto bello. Simone dice: siamo tutti parassiti, cheat di Andrew Ryan, esatto. Buonasera Francesco, che dice: andate a dormire. E poi Cristiano dice: ma no, com'è bello quel pizzi, smua, ti manda i bacini. Andiamo bene. quanto amore proprio. Ok Simone, vai, sì. Col 4. Allora, tenendo in considerazione che giochi come appunto Doom, Quake, Kick Off, The Last of Us sono stati tagliati fuori da questa classifica, questo è l'ultimo posto prima della zona medaglie. Esatto. Ed è strano perché il podio. Esatto. Ed è strano perché è fuori dal podio un gioco che, e quindi ritorniamo sempre per assoluti, perché io questo ho fatto nella mia scelta, il gioco a cui ho giocato di più in termini di ore in tutta la mia vita, ed è Fallout 3. Cioè io Fallout 3 penso di aver consumato centinaia di ore di gioco, e anche quando poi alla fine basta, è inutile, no? Io devo andare a cercare, cioè considerate che io ho battuto a tappeto tutta la mappa, l'ho battuta tutta a tappeto proprio cercando i minimi segreti, le minime cose. Poi sai, con Fallout 3 poi alla fine diventi, quando sali tanto di livello diventi praticamente Dio, quindi cioè nel senso non è che c'hai il problema oddio mi arriva il mostro e mi ammazza, cioè ovviamente quando sei arrivato a un certo livello. Allora, Fallout 3, perché? Perché innanzitutto io ero innamorato della saga in generale, cioè già ab origine, cioè quando comunque il gioco era isometrico, e mi è sempre piaciuta l'ambientazione, mi è sempre piaciuto lo stile, perché è questo stile futuristico, retrofuturistico, quindi il futuro con la tecnologia degli anni 40-50, cioè una cosa che a me mi ha sempre affascinato, insomma, facciamo anni 50-60 poi. E Fallout 3, pur rappresentando un distacco totale dalla saga tradizionale, in realtà io lo adoro perché è stato un gioco veramente immersivo, anche nelle sue distorsioni, anche nei suoi bug, nei suoi glitch, nelle sue assurdità, quindi a volte succedono delle cose che chiaramente non erano previste dal gioco, comunque in qualche maniera facevano parte di quell'universo, cioè l'assurdità quasi quantistiche che succedevano all'interno del gioco facevano parte del gioco stesso. E forse il 3D, anche se ha cambiato molto del gioco in qualche maniera, proprio come impronta, secondo me gli ha dato quell'immersività che chiaramente non poteva esserci in un gioco isometrico. E tant'è che ci sono alcuni punti, e qui lo dicevamo anche con Marco Gualdi, a volte magari facendo certi pezzi insieme, quando scendi nella metropolitana di Washington, quando incontri i primi ghoul, che insomma non dico che te fa paura, però la mette nel senso, insomma, un po' di brividini quando senti questi e non sai dove cazzo stanno, quindi li viene a cercare. Quindi tutto sommato devo dire. E poi sta cosa del suo universo così terribilmente originale, cioè il mondo distopico post apocalittico l'abbiamo visto milioni di volte. Quello che non abbiamo visto è, che ne so, l'inventarsi un universo. Quindi, che ne so, i tappi come valuta, cioè a me i tappi come valuta è una genialata. Cioè, io mi ricordo che. E mi ricordo che tu avevi detto una volta su Runtime che collezioni i tappi proprio. Hai sentito? Non si è sentito? No. Abbiamo stato lontano, però c'è il sacco dei tappi. Volevo fartelo sentire a testimonianza di ciò che dico, insomma. È ancora qui nel mio cassetto il mio sacco di tappi, perché non si sa mai nella vita, capito? Non si sa mai che in futuro diventerà la moneta, esatto. E tu sarai ricco. Esatto. E poi ci sono dei personaggi assurdi, cioè nel senso è questo un po' western, un po' post apocalittico, un po' ci sono i mutanti, un po' ci sono le cose assurde. E poi ecco, cioè nel senso questa cosa della violenza anche a volte gratuita. E poi è bello perché tu, quando non sai come risolvere un problema, prendi il Fat Boy e cominci a sparare bombe nucleari contro la gente, insomma. Io, considerate un aneddoto piccolo, stupido, e chiudo qua, perché voi dice veramente poco da dire su Fallout 3. Quando io giocavo ore, veramente a volte sessioni di 5-6 ore, pure di più, quando proprio ero arrivato a pezzi che non ce la facevo più, mi si chiudevano gli occhi, mi ricordo che entravo a Megaton, che era la città insomma dove di solito stanziavo all'inizio, e entravo, quindi aspettavo di entrare, perché quando tu entri e cambi location lui faceva il salvataggio automatico. Finito il salvataggio automatico io salvavo veramente, cioè facevo un mio salvataggio, il mio personale. E poi cominciava a buttare bombe nucleari contro tutti, così, giusto? Così, tanto avevo salvato, e quindi, cioè nel senso, quello che stavo facendo. Cioè, poi distruggo tutto, esatto, tanto salvato. Esatto, tanto sarebbe successo. E poi non si distruggeva niente, moriva solo la gente. Però era bello perché vedevi queste micro esplosioni nucleari, era bellissimo quello. Era bello. Bello. Allora, io di Fallout, era una serie che a me mancava tutta. E ho recuperato con voi qualche mese fa in live il primo e il secondo, abbiamo giocato un po' entrambi e mi sono piaciuti molto, non pensavo così tanto onestamente, che poi sono diversi ovviamente da questi Bethesda, sono in visuale isometrica e sono un po' più strategici forse come tipo di gioco, complicato ma fattibile, pensavo che morivo male prima, invece sono riuscito a fare abbastanza cose, insomma, soprattutto il primo, e quindi mi ha colpito abbastanza in positivo, perché ripeto, era una serie che io in verità conoscevo come giocabilità questo Bethesda, quindi poi ho visto in verità che i primi due erano tutta un'altra cosa e mi sono piaciuti. Devo giocare ancora al terzo, però il terzo lo vorrei provare. È una serie che io ho sempre un po' snobbato onestamente, invece Gabriel l'adora, calcola nell'orologio, c'ha proprio lo smartwatch, c'ha il Pip Boy, sì. C'ha sempre il Pip Boy con lui. Abbiamo la versione, tutta l'anthology di Fallout, che è proprio a forma di bomba nucleare con dentro tutti i dischi, quindi lui è veramente fissato con Fallout, gli piace tantissimo, e quindi il 3 lo voglio, già tanto ce l'ho, e insomma mi piacerebbe comunque provarlo o con voi anche in live, insomma un pochettino lo proviamo, vediamo com'è, anche per vedere poi la differenza con gli altri due, che cambia poi tantissimo, no? Quindi serie che ho snobbato, che in verità però sto rivalutando ed è interessante. Guarda, io ti posso dire una cosa, perché ricevete molte critiche ovviamente dai puristi della saga, che poi, cioè, io poi in Italia sta cosa mi ha sempre fatto ridere, perché sono abbastanza convinto che tutti quelli in Italia che dicevano di aver giocato a Fallout 1 e 2, secondo me la metà non era manco vero, però proprio perché comunque erano giochi che non erano manco arrivati in italiano, fino a che non sono arrivate poi le patch di traduzione. Comunque, al di là di questo, io posso dire una cosa importante: i primi due sono classici giochi di ruolo isometrici col combattimento a turni, che però avevano dalla loro, oltre al discorso della lore che insomma abbiamo già detto, c'erano una grandissima varietà di possibilità di scelta nel modo in cui approcciare le cose. E se posso dire, Fallout 3 secondo me eredita questa cosa che tutti hanno un po' sottovalutato e evitato di raccontare nelle recensioni, perché erano tutti concentrati sul fatto che era diventato uno sparatutto in prima persona, che è vero, ma è vero anche relativamente, perché col fatto che c'è lo SPAV, che è comunque questa modalità dove tu metti in pausa e dici al gioco di sparare alla testa o al braccio o sull'arma. Ah, scegli dove fare, esatto, danno praticamente. Questa cosa la puoi fare limitatamente, non tantissimo, poi piano piano più cresci di livello e più la puoi fare sempre più spesso. In realtà richiama il gioco originale, perché dici anche la percentuale con il quale colpirai o non colpirai il bersaglio, no? Quindi, e soprattutto la varietà con la quale hai la possibilità di scegliere come affrontare le quest, perché ho delle quest che le puoi risolvere totalmente pacificamente, puoi fare il doppio gioco, puoi ammazzare tutti sia una parte che l'altra, puoi fare tutto quello che ti pare, cioè fondamentalmente compatibilmente con i giochi originali. Poi è chiaro che i giochi sono diversi, perché comunque ci stanno 15 anni di mezzo, insomma, che alla fine hanno portato Bethesda, che ha comprato comunque il marchio, a fare una scelta più moderna. Però, vabbè, sì. Però tutto sommato, ribadisco, con quel framework che hanno utilizzato loro e che si sono portati avanti per tanto tempo per fare gli Elder Scroll, per fare i Fallout, che è comunque un engine vecchio e problematico, tutti i bug, i glitch, le quest rotte, tutta, in qualche maniera assurdamente danno un elemento atmosferico in più al gioco, perché tu quando stai lì e stai a sparare un ratto d'alpa, e il ratto d'alpa a un certo punto sparisce sotto al terreno, ma non sparisce in un modo strano che si glitcha tutto, che diventa una cosa quasi raccapricciante. Vabbè, dopo una roba atomica ci può stare tutto sommato, capito? Esatto. Niente, questo è. Allora, Astolfo dice: Fallout 3 me lo sono giocato tutto e ancora di più, ho esplorato ogni luogo, un giocone, vedi come te che ha esplorato in ogni luogo. Sì, sì, sì. Mattia dice però Fallout 2 è molto meglio del 3, quindi a lui piace quello isometrico, tattico, diciamo, che ho giocato anch'io. Newpick dice il sacco dei tappi, c'è sempre tempo per un aneddoto. Bello, e Francesco dice a Fallout si sta ispirando al mondo reale, dato che il conflitto USA-Cina è terrificamente probabile. Dai, speriamo di no, insomma. Speriamo di no. Speriamo di non arrivare a questi livelli, insomma. Ok, vado avanti, che si è fatta una certa, signori. Quindi vado al mio quarto, che ho portato sul canale ed è il gioco più visto sul canale mio, perché sono l'unica, mi sa, ad averlo portato in italiano, e ho trovato tanta gente appassionata di questo gioco, mi fa tanto piacere. Ossia il mitico e unico Heroes of Might and Magic 3. E non lo trovo. Si è verificato un problema. Heroes of Might and Magic 3. Forse ti conviene cercarli su YouTube. Vabbè, lo cerco su YouTube. Alla fine c'è il mio, praticamente. Heroes of Might and Magic 3. E Echime. E infatti, vedi, c'ha 4175 visualizzazioni, 84 mi piace, cioè per me questi sono proprio numeroni impressionanti. E mi fa piacere, perché io questo penso sia il gioco che ho giocato di più in assoluto nella mia vita, come ore, come quantità di anni, perché l'ho iniziato a giocare, questo è del 97, io l'ho iniziato però a giocare quando andavo alle medie, quindi leggermente dopo. E non ho mai smesso, cioè tuttora. Io l'ho comprato poi su GOG, perché ragazzi, compratelo su GOG e non su Steam, perché su Steam è un po' una merdina. Su GOG invece si gioca meglio, che c'ha anche i DLC, ed è veramente un gran gioco. Questo qui è cioè, oltre alle musiche meravigliose e niente, per me è sempre fondamentale questa cosa, ma poi è troppo divertente, perché puoi scegliere vari tipi di castello con cui iniziare. Il migliore è il Castle, questo che ho preso io, infatti costruiamo il Castle, l'ho chiamato, dove ti puoi fare la tua truppa, ce ne puoi avere 7, e ovviamente la prima è la più pippa, più vai avanti più sono forti. Nel Castle puoi costruire l'angelo, poi lo puoi fare evolvere in arcangelo ed è il guerriero più potente di tutto il gioco praticamente. Quindi ci sono vari castelli, l'obiettivo è sconfiggere tutti gli altri che stanno in questa mappa, che tu piano piano scopri, vedete nella mappa è tutta nera dove ancora io non ho visualizzato, piano piano scopro la mappa e bisogna sconfiggere gli altri nemici a seconda dell'obiettivo della mappa, quindi tendenzialmente io metto quelli dove devo sconfiggere tutti gli altri nemici, dove rimanere l'unica sulla mappa, quindi devo conquistare tutti i loro castelli e sconfiggerli. Quindi è divertente perché è esplorativo, devi usare le risorse, devi prendere le varie fabbriche, con le fabbriche poi tutti i giorni accumuli le risorse per costruire sia le truppe ma migliorare anche il castello per avere le Mage Guild, quindi avere nuovi incantesimi da utilizzare in battaglia. La battaglia è strategica a turni, puoi scegliere la mappa fino a XL, quindi come grandezza io scelgo sempre le XL, so che sono divertenti da esplorare. Puoi andare sottoterra, puoi usare la nave per esplorare anche altre parti, altre isole, e quindi c'è veramente un sacco da fare, divertentissimo. E ripeto, ci sono anche altri modi per, ecco, gli angeli che adesso sono ancora angeli, poi diventeranno arcangeli. E la cosa divertente poi è il fatto che appunto che puoi mettere o il gioco a tempo, oppure devi trovare l'artefatto prima degli altri, oppure devi avere tot, che ne so, devi avere 200 arcangeli per vincere. Quindi ci sono vari modi per vincere, anche se ripeto, io metto alla fine sempre rimanere l'unico signore del mondo, di questo territorio. Questo poi è il gioco libero, perché poi c'è tutta la campagna volendo, quindi si può seguire tutta la storia. E la cosa ancora più interessante, io ho fatto anche il video anche di quello, c'è il map creator, quindi puoi creare le mappe da far giocare poi agli altri, quindi volendo, oltre alle mappe che ti dà il gioco base più le espansioni, si possono scaricare le mappe fatte dalla gente, quindi è molto divertente questa cosa. La mappa si può creare durante il gioco, quindi tu gli dici, che ne so, voglio 3 personaggi, 3 nemici, voglio che ci sia l'acqua, voglio che ci sia sottoterra, voglio che sia facile, medio, e il computer te la genera al momento, quindi è veramente un gioco infinito, tra scaricare quelle fatte dalla gente, il computer che te le genera come ti pare, quelle che puoi creare te. Ad esempio, io mi ricordo quando tornavo al liceo da scuola, creavo una mappa per mia sorella e poi lei la giocava. Mi ricordo una volta avevo fatto tutta la storia di Shrek, che doveva andare a salvare Fiona al castello di Farquaad, avevo fatto tutta questa storia praticamente, era così. E poi vedete, livellano, potete scegliere che cosa dargli, esperto di intelligenza, esperto di poteri d'acqua. Io consiglio sempre l'esperto di terra, perché c'è il town portal, siccome le mappe sono grandi, con quel town portal ti puoi teletrasportare in un tuo castello, che è molto pratico per andare a prendere le truppe, per evitare che gli altri ti freghino i castelli, eccetera eccetera. Quindi è un'avventura esplorativa strategica bellissima, infinita e fantastica da giocare. Anche, ripeto, le musiche sono una più bella dell'altra, anche se secondo me la musica più bella è quella del Rampart come tipo di castello. Bello bello bello, ne sono usciti tanti altri. E però in verità il terzo secondo me rimane il migliore, ma non solo secondo me, tantissime persone, anche ripeto, che hanno visto i miei video, hanno commentato insomma che il terzo rimane il più bello. Io ho giocato tantissimo al secondo, che è stato il primo che ho giocato, poi ho giocato al terzo, mi sono innamorata, ho giocato al quarto e al quinto poco perché non mi hanno fatto impazzire, e quindi questo penso veramente sia il gioco che ho giocato più ore nella mia vita. Bellissimo, non mi annoia veramente mai, ogni tot tempo lo reinstallo e ci gioco. E Simone, lo conosci? Allora, io l'ho conosciuto, cioè nel senso, no, non lo conosco, però te ne ho sempre sentito parlare e ovviamente ho messo diverse cose in wishlist proprio per... Però su GOG, mi raccomando. Ok, va bene. Io GOG lo frequento veramente poco perché lo trovo asburgico. Comunque farò come dici. No, l'unica cosa è che l'unica domanda che ci avevo, ma hai risposto, insomma, che se c'era una campagna narrativa, ma mi hai detto di sì. Sì, c'è una campagna, però io mi diverto molto di più in verità a fare il single scenario. Ma lì, ma rispetto... E ripeto, soprattutto a scaricarli da quelli che fanno le persone. Ma rispetto a quelli più recenti? Ma quelli più recenti, alla fine la base del gioco è sempre la stessa, okay. È sempre stata così anche nel secondo, insomma, quello più vecchio. È sempre questo, cioè tu fai la truppa, esplori e... Però non lo so, non mi sono mai piaciuti né graficamente né il modo di cioè il combattimento è quello, però non lo so, non ha lo stesso fascino. Non te lo so spiegare, secondo me è tutta una questione di grafica soprattutto, e lo trovo anche meno pratico. Questi qui sono più pratici, sarà anche l'abitudine, tutta la vita c'è gioco, quindi sarà anche quello, sarà, sì, che sono affezionata, non lo so, lo trovo più semplice, più intuitivo, più pratico, non lo so, non mi hanno mai convinto quelli successivi, me l'ho giocati veramente poco. Sì, a me è pure una questione d'affezione, infatti. No, sì, vabbè, sì, okay. Sicuramente. Però ripeto, tanti fan ho visto che questo qua è quello che amano di più in assoluto, e spesso, ragazzi, su GOG non lo comprate a prezzo pieno, perché spesso sta in offerta a 2,90 euro. Infatti io l'ho comprato quando stava a 2,90 euro, che è un ottimo prezzo, e ripeto, ci sono anche le due espansioni, quindi ci avete anche gli altri castelli eccetera, quindi è molto interessante. Allora Cristiano dice: quindi è qui che sfogavi il tuo talento per le lore? Esatto, da qui. Io mi immagino la sorella che tornava a casa, ho fatto la mappa pure oggi. No, in verità lei andava all'università e quindi lei stava, che ne so, magari stava a casa perché non c'aveva lezione, però stava a studiare, e io tornavo, mi mettevo a fare la mappa e poi dicevo: ti ho fatto la mappa, giocala. Però lei era contenta, in verità, perché ma lei sì, pure adora questo gioco. Volendo si può giocare anche in due, sia da ognuno a casa sua, diciamo, che praticamente c'era un modo per poter giocare anche a distanza, una sorta di internet dell'epoca, più o meno. C'era comunque il modo di poter giocare a distanza. E se no puoi giocare in due giocatori contro poi il computer. Quindi, che ne so, io prendo i rossi, tu prendi i blu, quindi faccio il turno mio, poi tocca a te. Quindi è anche multiplayer, volendo, anche in locale, insomma, nella stessa mappa. Puoi farlo alleato, diciamo. Bene. Ok, quindi al terzo posto per Simone. Allora, arriviamo alla medaglia di bronzo. Anche se secondo me è strano questa medaglia di bronzo, perché avrebbe potuto essere al primo posto, ma non... Io ero convinta lo mettevi al primo posto. Lo so, però purtroppo poi ci sono dei legami che sono difficili da spezzare. Parliamo di Zack McCracken and the Alien Mindbender. E qui anche Cristianone gli piace Zack McCracken. Sì, poi lo sa che abbiamo fatto una puntata proprio sul Calavera, proprio lui è, no, basta sempre parlare di giochi Lucas, però questo era il mio gioco, è stato il mio gioco Lucas per definizione. E qui c'è doppio aneddoto, cioè il primo aneddoto è che questo gioco, tra l'altro, io l'ho conosciuto perché quando ero ragazzino guardavo una trasmissione che c'era all'epoca, insomma, quando ero ragazzino, di pomeriggio, che si chiamava Tandem, e su Tandem c'era un piccolo angolo che capitava ogni tanto dove presentavano dei videogiochi, e tra i videogiochi ovviamente una volta presentarono questo gioco qui, che lo presentarono male perché non avevano capito minimamente, no? Cioè, perché sembra come un po' una simulazione della vita reale, tu prendi, vai a pagare la bolletta del telefono, la simulazione da vita reale, sì, non avete capito un cazzo proprio, cioè, scusate il termine, però perché questa cosa che tu pagavi la bolletta e prendevi l'autobus, capito? Quindi per loro era la simulazione della vita reale, però era tipo un Tamagotchi, sì, un po' gli umani, tutto a posto, è un po' tipo lì il computer people posteriore. In realtà, cioè, se tu vedi la prima scritta e leggi Lucasfilm Games, cioè Lucas, cioè, per me tu associ la parola film alla parola videogioco, voi oramai l'avete imparato, insomma, chi un po' mi conosce, che sono i due universi artistici, perché li considero così, che amo di più in assoluto. E quando queste cose in qualche maniera si fondono, per me era proprio una goduria incredibile. Scusami, grazie mille a Virtual Channel One per essere diventato follower. Anzi, sta facendo un raid, grazie, il mio primo raid. grande. grazie mille di cuore, il mio primo ride, sono emozionatissima, grazie. Io non so neanche cosa sia un ride, però va bene, cioè, se è una cosa bella sono ride contento. Praticamente quando stava in live la finisce e praticamente manda i suoi utenti su un altro canale. Ah, che carino, è attivo in quel momento. Bello, carino, molto bello, grazie, bravo. Grazie di cuore. Comunque vabbè, è il mio primo, capito, mi sono emozionata. Ha fatto bene, ci mancherebbe altro, visto che oramai tra poco non ci rivolgerai più neanche la parola perché diventerai ricca e famosa. Sì, vabbè. Vabbè, comunque tornando a Zack è una bellissima avventura grafica da Lucas con questa storia molto fantastica e molto narrativa. Se ce ne sono tantissime di cose da raccontare su Zack che non faremo in questo caso. C'era chi lo voleva fare un gioco serio, vedi David Fox, c'è chi lo voleva fare più divertente, vedi Ron Gilbert. Alla fine è uscito fuori, insomma, questo gioco molto ironico che comunque mette insieme tutta una serie di mitologie, luoghi comuni, insomma, degli anni Ottanta, no? Anche dal punto di vista della fantascienza. Ed è comunque un gioco che ha questa impronta cinematografico, questa storia avrebbe potuto tranquillamente essere un piccolo film. L'unica cosa ovviamente devastante di un gioco come questo è la tipica cosa delle avventure grafiche dell'epoca, è lo stesso problema che c'aveva anche Maniac Mansion, ossia a volte gli enigmi erano incomprensibili o oggetti che stavano da una parte servivano per risolvere un enigma tutto da un'altra parte del mondo, ad esempio, no? Perché qui per esempio dovevi andare a Lima a prendere dovevi prendere il pane, tritarlo a casa tua per andare a Lima e metterlo in un posto perché così sarebbe arrivato un uccello che poi ti avrebbe permesso di fare un'altra cosa. Cioè, diciamo che oggi la parte degli enigmi è molto più contestuale, molto più sviluppata bene, allora era un po' più approssimativa, dispersiva, diciamo. Esatto, infatti Zack McCracken è uno di quei giochi che magari se tu lo giochi tutto di filata magari non dura tantissimo, ma per te durava mesi, perché ovviamente prima di riuscire a portare a termine capivi un po' tutte le cose che dovevi fare, magari poi uscivano le soluzioni dopo qualche mese sui giornali e via dicendo. Però ecco, diciamo che questo è stato il gioco che ho amato di più in assoluto, uno perché a volte mi faceva veramente ridere e due perché comunque è stata proprio la prima avventura grafica proprio seria che ho giocato tutto da solo e che mi sono goduto da solo e che alla fine ho portato a termine. È difficile spiegare appunto il perché, però è stato comunque il gioco su Amiga che mi aveva folgorato, mi piaceva lui, mi piaceva il personaggio, mi piacevano i disegni, mi piaceva la grafica che per allora insomma magari non era al top rispetto a quello che poteva fare l'Amiga, però a me piaceva, cioè nel senso era così, proprio questa cosa di questa sensazione di giocare un film a me piaceva, perché quello era il massimo che tu potevi ipotizzare di giocare una storia più o meno tra virgolette cinematografica. E poi come vedi c'era questa cosa dei nel frattempo succede o dopo un po' di tempo, sì, un racconto, no? Esatto, cioè, era proprio un vero e proprio racconto come nei film, capito? Nel frattempo che poi è una cosa che poi abbiamo visto sviluppata all'ennesima potenza sul primo Monkey Island, no? Cioè nel senso comunque sì. Considera che penso che l'esperienza fatta su Zack ha portato all'ennesima potenza tutto quello che era il top della loro capacità creativa, ovviamente col primo Monkey Island, anche se poi come te e tanti altri il secondo Monkey Island viene considerato il migliore e sicuramente lo è, il primo è molto più rappresentativo proprio per il gradino evolutivo insomma, no? Che rappresentano avventure Lucas, e questo è il gioco che io amato alla follia e amo ancora alla follia, però sono costretto a metterlo al terzo posto perché comunque gli altri due sono più rappresentativi di altri legami insomma. Infatti Cristiano si stava offendendo, però siccome poi hai raccontato un aneddoto allora è rimasto. È contento. Perché dice lo dovevi mettere al primo posto, ma ripeto, ero convinta lo mettevi al primo posto. Lo dovevo mettere, però poi capirete perché non è al primo posto insomma. E Astolfo dice confermo Zack è davvero una bella avventura. Allora io questo in verità l'ho solo provato tantissimi anni fa e mi ricordo che ho pensato oddio è veramente strano. Mi ricordo questa cosa e... Però poi così, non mi ci sono soffermata, l'ho abbandonata abbastanza velocemente e non l'ho mai più provato. Quindi insieme a Loom sarebbe da recuperare comunque. classiconi che mi mancano, ammetto che mi mancano questi qui. Sì, diciamo che forse Loom sarebbe da recuperare. Forse Loom oggi è più su YouTube, è più compatibile per certi versi. Zack forse potrebbe essere un po' ostico per tante ragioni, non tanto solo per la difficoltà. Tra l'altro l'ultimo aneddoto è che Cristiano, se lo ricorderà bene, nella prima riunione in cui dovevamo decidere come si doveva chiamare il podcast, io suggerì Sushi in the Bowl, perché ovviamente se nella stanza, quella che sta lì a sinistra, che è la stanza da letto di Zack, c'è Sushi, che è il pesce che sta nella sì, che l'ha preso all'inizio nella bolla, esatto. Lui praticamente, siccome che poi dopo quella bolla ti servirà ovviamente su Marte, figurate, pensate quanto, però lui prende il pesce e lo mette nella pianta praticamente, e dice vabbè, alla fine il pesce diventa concime per la pianta, e quindi questo avrebbe potuto essere il nome di Calavera Caffè, ma Cristiano si è impuntato e da lì poi dopo non è stato così. Però ecco, per farti capire che noi abbiamo litigato già dalla prima riunione. Allora passo al mio podio, quindi al terzo posto metto il motivo per cui non ho guardato la serie che hai detto prima, perché io amo alla follia The Witcher 3. Allora, io ho giocato al secondo e al terzo e ho letto anche il primo libro, e dopo aver giocato al terzo ho letto il primo libro, ho anche il secondo ma lo devo ancora leggere, e questo per me rimane uno dei giochi più belli in assoluto. Adoro le storie di questo gioco, cioè questo gioco c'ha delle storie fantastiche, penso che sia uno dei giochi che hanno le storie secondarie, le missioni secondarie più belle di sempre. Ci sta soprattutto una che ho letto, è considerata proprio una delle quest secondarie più belle in assoluto, e obiettivamente ha una storia fantastica. Quindi questo gioco è divertente da giocare perché, insomma, il fatto che comunque il combattimento con tutti i segni che usa lui, il suo senso di strigo, tipo il senso del ragno, capito? Il suo senso di strigo che lo aiuta a trovare gli indizi, la storia di con Siri. Poi io sono Team Triss, a me Yennefer mi sta un po' sul cazzo e sono Team Triss assolutamente, preferisco lei tantissimo. E poi mi piace Geralt come personaggio, mi piace il fatto che sia attempato e è affascinante, non è bello, è affascinante. Infatti Henry Cavill secondo me non c'entra proprio una fava, perché Henry Cavill è giovane, è bello, quando secondo me lui è attempato, però è affascinante, non è bello, è molto affascinante secondo me Geralt. Infatti io ci avrei visto benissimo Mads Mikkelsen a farlo, sia come età che il fatto che non è bello, però con questo capello bianco vestito così secondo me poteva essere affascinante. Quindi secondo me Mads Mikkelsen è Geralt, ci stava proprio una crema. Quindi questo gioco, ripeto, oltre che c'ha dei paesaggi stupendi, a volte anche al tramonto, ti metti così, sei su Rutilia che è il cavallo, ti fermi e guardi questi paesaggi meravigliosi. Il mondo è immenso, ci sono un sacco di cose da fare, tantissime. Adoro il personaggio di Siri, è un bellissimo personaggio Siri, proprio mi è piaciuto un sacco. E quindi io, mentre studiavo ancora, ho intravisto con la coda dell'occhio Gabriele che guardava la prima serie. Però vedevo solo, lui stava con le cuffie perché io stavo studiando, e quando ho visto chi era Yennefer, chi era quello, quell'altro, ho fatto oddio, ma che è sta bestemmia, cioè non ce la posso fare. Yennefer è fatta da una ragazza molto giovane, quando Yennefer in verità è una tardona che però essendo maga si fa un incantesimo per ingiovanire praticamente, però non è una ragazzina Yennefer. E quindi boh, non so, una serie Yennefer e Siri hanno quasi la stessa età, cioè secondo me non si può proprio vedere, però va bene. E questo gioco c'ha tutto, questo è, ripeto, una delle poche volte sempre che posso dire capolavoro, perché sono belli addirittura i DLC, sono usciti due DLC che sono lunghissimi, che hanno delle storie bellissime, anche i DLC, c'è una profondità ma stupendo, poi tutti questi strani esseri che si incontrano, insomma, bellissimo, cioè veramente spettacolare. E la cosa più bella proprio secondo me è la storia e i personaggi di questo gioco, bellissimo, stupendo, stupendo proprio. Io l'ho comprato appena uscito su PS4, e pure lì mi ricordo dovevo andare al lavoro, rosicavo, mi svegliavo presto la mattina per giocare, la sera anche se ero stanca arrivavo alle mille, dovevo giocare comunque a The Witcher, cioè dovevo giocare assolutamente, bellissimo, bellissimo, bellissimo, non ho veramente altre parole per descriverlo, è stupendo. Te l'hai giocato o l'hai solo visto la serie? No, io ho giocato il primo. Ho giocato il primo tutto, me lo so finito. Un gioco che oggi è ingiocabile, cioè nel senso oggettivamente è brutto da giocare, ma fa parte un po' della vecchia scuola. Però è quello che ha dato origine a tutto e io l'ho adorato il primo The Witcher, proprio è stato un gioco anche complicato perché comunque poi alla fine ci sono dei boss veramente tosti da superare. Ma lo gioco. E poi ragazzi, io penso che voi non avete, sai come si diceva, c'era un film di Star Trek che un Klingon diceva non potete apprezzare Shakespeare se non l'avete mai letto in Klingon, e io faccio la stessa cosa dicendo non potreste mai apprezzare The Witcher se non avete sentito il doppiaggio italiano del primo, perché secondo me è una delle cose che è talmente brutto ragazzi che gli dà carisma, cioè è come con Fallout 3. Considerando che poi la voce invece in inglese di Geralt è stupenda, capisci? Mo mi dici che la voce di italiana è orrenda. Allora, la devi sentire. La devo sentire, questa perché mi manca. All'inizio è troppo. È un fastidioso, però cioè, lo senti che è un doppiaggio di merda, no? Però poi a un certo punto ti entra talmente. È talmente ipnotico il modo in cui lui parla. Capito? È così brutto che diventa bello. Che alla fine ti entra dentro, diventa per te Geralt è così. Capisci? E quando io poi ho visto il secondo, ho iniziato a giocare al secondo, che poi l'ho lasciato perdere perché qua storia dei Quick Time Event, ti giuro no. E sentivo lui che parlava. Sì, sempre con la voce. Lui c'ha la voce, come on, Roach. Esatto. Però, questo non è Geralt. Cioè, Geralt è quello che parla. Non è Geralt. Quello. Ciao Jennifer. Bellissimo. Però fidati che questo dovresti giocarlo. Questo è veramente stupendo. La storia è fantastica. Secondo me a te potrebbe piacere. No, ma il 3 ce l'ho, cioè ce l'ho in. Cioè ce l'ho anche. Cioè lo devo solo giocare. Cioè, nel senso, ma non perché non mi piace giocarci, anzi. Beh, ci vogliono tante ore, preparate. Sì. Purtroppo. Bello lungo. Purtroppo ultimamente veramente devo un po' mollare. Questo è che troppe cose. Comunque, allora, Newpick diceva: non preoccuparti, Sushi avrà il suo riscatto in un certo atto di una certa avventura. Attenzione. Guarda, non lo voglio manco sapere. Probabilmente potrebbe essere un Shadows on the Vatican atto 3. Quello con i capelli, magari. Quello con i capelli a banana, insomma. Ma te dice è perché non avete mai giocato uno Yakuza sulle side quest. È vero, Yakuza è una serie che mi manca purtroppo. So che dicono tutti che è stupenda, però mi manca. Astolfo dice la quest del barone, eccola qua. Per me è la storia migliore, bravo Astolfo. Quella del barone è stupenda ed è considerata una delle migliori side quest in assoluto nella storia dei videogiochi. Francesco dice Yen farà 90 anni, esatto, quindi c'è una tardona che però se fa l'incantesimo tipo a Naruto Tsunade, che fa la stessa cosa praticamente per essere più giovane. Il primo Astolfo dice l'ho trovato difficile, morivo sempre. E Newpick dice la battuta di Star Trek è bella, però va bene, quindi questa era la mia medaglia di bronzo e quindi vediamo l'argento di Simona. Allora, il mio argento, il motivo è sempre lo stesso, sempre un legame con la cinematografia, anche se devo dire che questo gioco quando uscì ci ha lasciato tutti col mascellone, insomma, che è Another World della Delfin Cinematic, che c'ha tantissime cose positive. Uno è, secondo me, è il platform, adventure platform, dal quale poi alla fine oggi vediamo tante derivazioni, cioè tipo Inside, tutti questi Limbo, anche quello che è uscito recentemente del ragazzino scandinavo. Se tu ci pensi, alla fine tutti questi giochi che ci hanno comunque una base platform, ma sono molto cinematici da un certo punto di vista, alla fine secondo me sono tutti un po' figli di Another World, che comunque cioè parte da quel presupposto lì, quindi da un platform con delle grandissime animazioni e con un grandissimo carisma e una bellissima atmosfera e, come dici giustamente Deborah, cosa importante, forse al 40% insomma del valore artistico di un'opera, e c'è anche una grandissima musica che costruisce chiaramente un'atmosfera incredibile. Se noi consideriamo che la maggior parte delle persone caricavano Another World solo per l'introduzione, che era un'introduzione puramente cinematografica, fatta con inquadrature, primi piani, stacchi, insomma tutta una serie di situazioni che fino ad allora non avevamo mai visto, proprio perché comunque la Delfin si era inventata questo stile d'animazione basata su grafica vettoriale, quindi non dovevi caricare i fotogrammi, ma lì erano tutti numeri che ovviamente poi l'Amiga trasformava in immagini che si animavano. E quindi questo permetteva di risparmiare talmente tanta memoria che tu potevi fare animazioni a sbafo, che prima, fino ad allora, non era fattibile, insomma. Infatti, se voi considerate che il gioco più ben animato fino ad allora era Prince of Persia, ma c'aveva tre animazioni, cioè c'aveva la corsa, il salto e la frenata, cioè fondamentalmente poco altro. E anche sebbene era comunque animato da paura. E Another World era bello, ragazzi, cioè c'è niente da fare. È un gioco che se tu lo giochi tutto di filata, che lo conosci tipo speedrun, lo conosci a menadito, penso che dura un'oretta fondamentalmente. Ma è un altro di quei giochi in un'epoca in cui i giochi erano veramente difficili, che comunque magari ci mettevi settimane prima di finirlo, insomma. Perché magari non è che beh, sta. Si calcola questo complete walkthrough dura 36 minuti, quindi questo lo sa a memoria che deve fare. Esatto, sì, sì, sì, esatto. E ragazzi, l'intro, le prime sequenze col mostro lì, vedi, sullo sfondo, che poi ti guarda e poi dopo se ne va. Cioè, tutta questa cura pure per lo scenario. E la storia, perché c'è comunque una storia. Tutti gli altri personaggi che si muovono, il tizio che insomma diventa tuo alleato. E le pistole laser, insomma gli enigmi ambientali, le varie animazioni che ci stanno. E ragazzi, questo era un gioco coi contro, secondo me, e su Amiga all'epoca, secondo me non c'erano uguali come carisma. Poi è chiaro, ci sono stati tantissimi altri giochi belli, però ecco, questo è un gioco che secondo me ha lasciato proprio, questa è una pietra miliare, una di quelli che puoi dire questo gioco ha lasciato il segno e c'è un'eredità di videogame dopo Another World, perché c'è stato Another World. Ecco, questo mi sento di dire, e quindi non può non stare al secondo posto, se ovviamente anche in questo caso primo, secondo e terzo posto è tutto molto relativo, insomma. Guarda, io questo qui ce l'ho su Amiga, la sera d'Amiga, infatti l'ho anche messo e l'abbiamo anche giocato da poco, poi sullo SNES, in queste giornate SNES. E la versione Amiga, vabbè, secondo me è molto superiore confronto a quella SNES, onestamente. E è un gioco che all'epoca con mia sorella mi ricordo che facevamo cagare, cioè nel senso l'intro mi è sempre piaciuta, come dici te, molto cinematografica e per l'epoca wow. Però facevamo veramente cagare all'inizio, sti vermetti, sì, che sembrano vermetti ma poi hanno tipo dei denti che ti ammazzano, quindi saranno una sorta di serpenti anche se sembrano vermetti, cioè ci ammazzavano sempre perché gli davi i calcetti e comunque ti piavano, li saltavi e ti piavano e rosicavamo. E poi se riuscivamo a superarli c'era sto scimmione che ti perseguitava, dovevi correre, a una certa morivi. E quindi ci dava l'ansia a tutte e due, entrambi abbiamo poca pazienza, quindi onestamente più di quello non che avevamo mai fatto. Poi tanti anni dopo, in verità, in compagnia di un'altra persona che era fissata insomma con questo gioco, mi ha fatto vedere, abbiamo fatto una buona parte, insomma mi ricordo, ecco, che c'è sta sto tipo che si allea, come dici te, le pistole laser, insomma, che stanno qua rinchiusi, tutto questo pezzo l'avevamo fatto, però non l'avevamo finito comunque, però almeno avevo visto un po' di più di quello che avevo visto all'epoca. Quindi sì, è un gioco che capisco l'importanza storica che ha avuto, soprattutto, ripeto, il punto di l'intro cinematografica, secondo me è la cosa proprio top. E però diciamo non fa parte della mia storia videoludica, ecco, perché l'ho giocato veramente poco, però capisco insomma l'importanza del videogioco, questo sia. Sì, sì, ma ci sta, perché comunque il gioco era pure abbastanza ostico, probabilmente non era neanche perfetto, no? Cioè, nel senso, non è che puoi dire che videoludicamente era un capolavoro. È comunque, come ti ho detto, secondo me è una pietra miliare fondamentale che poi dopo alla fine comunque ha creato tanto dopo di senso. Sì, sì. Comunque Newpeak dice ti volevo insultare ma su Another World non ce la faccio, hai fatto bene, facciamo pace. Quindi, ok, insomma, meno male, è ritornata un'amicizia. Adesso sono tranquillo, guarda. Dormi più sereno. Sì. Astolfo dice ho pianto alla fine del gioco e Simone invece dice quanto rosico, non l'ho mai finito. E niente, povero Simone. Quindi andiamo di corsa alla mia medaglia d'argento, che è Skyrim. Ah, e qui quanto l'ho amato. Anche qui comprato quando è uscito su PS, cioè PlayStation 4. Anche qui mi toccava andare al lavoro e quindi rosicavo perché io volevo giocare e invece poi dovevo andare a lavorare. E quindi tornavo la sera stanca e giocavo uguale a Skyrim sti cazzi, la mattina prima di andarmene giocavo uguale sti cazzi, cercavo di giocare più che potevo perché era stupendo. Quindi questo gioco assolutamente medaglia d'argento, ma il mio terzetto l'ho fatto subito, cioè bronzo, argento e oro subito al volo, lo sapevo già che cosa mettere. E questo gioco, a differenza di The Witcher, praticamente non c'ha storia. Cioè The Witcher, la cosa bella proprio è tutta la storia, i personaggi. Skyrim non c'ha niente di tutto ciò, insomma c'ha una storia proprio base, la quest iniziale, insomma quella lì, la quest importante, che è quella, insomma c'è una storia molto base, cioè tu sei il sangue di drago, tu sei Dovahkiin, devi sconfiggere i draghi. Parli la lingua dei draghi, vai a sconfiggere i draghi. Cioè la storia è questa praticamente. Quindi sicuramente la storia di questo gioco è proprio misera, ma è bellissimo. È bellissimo, uno, enorme, veramente la mappa, puoi andare ovunque, vedi una montagna e te ci puoi arrampicare col cavallo, anche perché il cavallo c'ha una fisica tutta sua ed è divertente anche questa cosa. E, ma poi puoi esplorare le parti sotterranee che fanno parte del mondo dei nani, poi ci sono i draghi, ci stanno i giganti, ci stanno gli esseri della foresta, gli spiriti della foresta, cioè c'è di tutto veramente, ci sono i vari jarl nelle varie città, tu puoi diventare jarl e quindi conquistare tutte le città, poi fare tutte le gilde, io ho fatto tutte le gilde, anche se io ho scelto il mago e lo sconsiglio, io scelgo sempre il mago come personaggio in questi giochi, ma a Skyrim il mago fa cagare. Infatti la prima volta che l'ho giocato, su Xbox 360 quando era uscito, e avevo preso il mago e ho fatto una fatica infinita perché il mago è una merda, cioè vale pochissimo, gli incantesimi fanno poco danno, appena gli fai, il mago non ha difese. E i goal tutti quanti livellano insieme a te, cioè la cosa di Skyrim è che non è che dici vabbè quello è troppo forte, vada a livellare, vabbè Google si è attivato, non ci fate caso, vada a livellare e poi lo vado a ammazzare, no, perché i mostri livellano insieme a te, quindi è inutile allenarsi, perché i goal poi ad esempio hanno sempre il tuo livello, quindi col mago io non sono riuscita a finirlo Skyrim, perché alla parte finale erano troppo forti, perché il mago fa schifo. Quando poi invece ho preso sulla PlayStation 4 l'edizione special, ho preso il guerriero, come mi ha detto Gabri di fare, ed è molto più fattibile, infatti sono riuscita a giocare senza problemi. Poi nella special edition hanno aggiunto anche il fatto che tu ti puoi costruire casa piano piano eccetera eccetera, vabbè quello l'ho trovato abbastanza inutile, però è interessante entrare in tutte le gilde, io ho fatto la gilda dei maghi, la gilda dei bardi, la gilda dei ladri. Puoi diventare il lupo mannaro, puoi diventare quasi, cioè 300 milioni di cose, un sacco di quest, e volendo questo gioco è infinito perché ci sono alcune quest che continuano a ripetersi, cioè tu vai in una città e continuano a dire c'è stato quel gigante che ci ha rotto le palle, va a ammazzare, ci stanno quei briganti in quella caverna, va a ammazzare. Quindi in verità questo gioco è infinito, ovviamente si ripetono poi alla fine le quest, però puoi giocarci tutta la vita, cioè non c'ha un finale, continuano ad esserci quest a più non posso. Quindi ripeto, poi questa è la musica, cioè la mia musica preferita nel mondo dei videogiochi è quella di Skyrim. Il team di Skyrim di Dovahkiin per me è la canzone, la musica dei videogiochi. Quindi open world, Bethesda fa dei paesaggi stupendi, meno i visi, quindi i personaggi non sono mai dettagliati, e come vi dicevo non è che ci sono le storie, i personaggi che incontri sono NPC, sono random, cioè non c'hanno delle sfumature importanti come in The Witcher, sotto il suo punto di vista è veramente nullo. Però non lo so, io mi sono troppo innamorata di questo gioco quando è uscito, quando l'ho rigiocato, e lo rigiocherei ancora volentieri perché mi ha affascinata tantissimo. Mi sono veramente innamorata. Questo è stato veramente grande amore, cioè veramente un amore profondo a Skyrim. Ed è però un gioco che, non dico capolavoro perché ha difetti, è un gioco che ha difetti, ma anche con i difetti lo amo assolutamente. Quindi medaglia d'argento sicuro. Te Simone l'hai giocato questo? No, io ho giocato Oblivion in compenso, però quello prima. No, Skyrim non l'ho giocato, però vabbè, cioè, se lo conosco abbastanza, anche perché ne abbiamo parlato, cioè, abbiamo fatto diverse puntate, insomma, pure sui nostri podcast. Però sì, come dici te, poi alla fine è la logica Bethesda, no? Pure sui Fallout è così, cioè non c'è una vera trama, cioè c'è una trama principale, ma è molto esigua, no? In realtà è l'universo quello che fa la differenza, perché per esempio se tu consideri, ecco, come dici, ti puoi comprare la casa, ti puoi sposare, ti puoi costruire delle relazioni, cioè nel senso, poi alla fine è l'universo che plasmi a seconda di quello che tu fai che fa la differenza nei giochi Bethesda, a fronte ovviamente di una narrativa più mancante, insomma, questo senza meno. Però vabbè, comunque vedo che è super amato, anche questo ce l'ho, gli ho sempre detto mo spingo play e poi ancora non l'ho fatto. Anche questo ci vuole tante ore, lo so. Soprattutto se ti vuoi soffermare, insomma, su fare tutte quelle secondarie che sono importanti, andare in tutte le gilde, fare tutte le gilde, quindi sì, insomma, ci vuole tante ore, però sono ben spese, onestamente, è proprio bello, lo adoro all'infinito sto gioco. Allora, poi, medaglia d'oro, attenzione signori, anche perché si è fatta una certa, quindi diamo la medaglia d'oro per Simone. Strano che si è fatta una certa, di solito siamo così. Vero, io e te chiacchieriamo poco, cioè abbiamo poca chiacchiera. Allora, c'è pure la musichina da medaglia d'oro, esatto. Attenzione, no, il jingle. Sì, vabbè, d'altronde è Pitfall 2, allora perché Pitfall 2 prima di tutto? Perché è stato il primo videogame nella mia vita che ho completato. Cioè, ti metto la versione Commodore? No, Atari 2006. Atari, me l'hai scritto, Atari giusto, 2006. Atari 2006. No, non scherziamo, per cortesia. Scus. Pitfall 2, perché il 2, ho giocato anche il primo, però il 2 è più figo, perché mentre il primo è soltanto un platform praticamente a scorrimento orizzontale a schermate, e invece Pitfall 2 è un platform a scorrimento orizzontale e verticale a schermate, però vai anche verso il basso, cioè nel senso che poi tra l'altro la cosa incredibile è che quando tu inizi nella schermata iniziale il tuo obiettivo è sotto di te, solo che tu lo devi fare tutto il giro del Z-Map. E allora, uno, perché veramente ci ho giocato tantissimo, è un gioco che ho amato tantissimo su Atari 2006 ed è stato il primo gioco che ho finito, come ti ho detto. È un gioco che ci aveva, da quello che ho scoperto successivamente, in realtà aveva un chip progettato apposta nella cartuccia che aumentava un po' le potenzialità dell'Atari 2006, sia dal punto di vista della quantità della mappa, perché considerate che la mappa è praticamente tutta in memoria ed è tutta a scorrimento, cioè nel senso vai prima giù tutto da una parte, poi ritorni su tutto da un'altra e trovi tanti tesori, devi fare tante cose, vai sott'acqua come vediamo, raccogli ori, poi devi saltare da un punto all'altro, prendi dei palloncini, plani da una parte, plani dall'altra, insomma fai tutto quello che un po' ci si aspetta da un platform, anche se qui parliamo veramente degli albori dei platform, cioè nel senso anche qui un altro gioco che avvierà tutta un'altra serie di giochi, un altro, diciamo, punto di partenza, insomma, su tante cose. E la storia di Pitfall Harry è quello di dover andare poi a recuperare, mi pare, la figlia, forse, la figlia è un leone, il suo leone. Che poi la figlia era, e il suo leone? Sì, che poi per me non era un leone, ma era uno scorpione, perché chiaramente con gli sprite da 2006 che mi incazzo, cioè. Cioè, nel senso faceva troppo schifo la grafica, però era bellissimo, cioè allora era fantastico. E qui pure è un gioco tutto di sincronizzazione, un po' anche di memorizzazione, devi ricordare dove stanno le cose, a volte le vedi, ecco per esempio tu mentre che cammini vedi quello che c'è nei piani di sotto, però non è detto che tu ci arrivi direttamente, quindi devi fare magari tutto il giro e ricordarti che devi andare lì magari a prendere l'oro, a prendere l'oggetto. E poi c'è questa cosa della musica, pa, pa, pa, pa, pa, che insomma c'è ancora oggi. Era il jingle di prima, pa, ta, pa, esatto, pa, esatto. Pa. E praticamente tutta sta musica che tu te la porti dietro, praticamente tutto il, e che cambia solo quando tu prendi gli ori, cioè prendi i pezzi, i lingotti d'oro praticamente. E quindi diventa più veloce tutte, insomma, quindi è un quindi praticamente lui dice l'utile al dilettevole, nel senso vado a salvare mia figlia col leone, sì. Però nel, mentre mi prende i lingotti, allora vado a salvare mia figlia col leone che stanno sotto di me, però tutto un giro in una miniera praticamente, quindi dovendo scendere da sta miniera, dato che c'è so, che fai? Insomma, ti metti in saccoccia, capisci, dei lingotti d'oro che sono più grandi di te, però non fa niente. E poi non... è facile portarseli appresso, certo, pescare cose, tutti i lingotti d'oro pesano poco. Soprattutto quando vai sott'acqua, poi. Pure sott'acqua, quei lingotti. Esatto, se vai sott'acqua, dove incontrerai ovviamente anche dei serpenti elettrici, poi vedi quando scendi le scale ci sono delle rane che ti danno fastidio. Vabbè, insomma, è un platform, fondamentalmente è un platform. Solo che allora fece molto successo, un po' per la bellezza anche dei colori, della grafica, e un po' per la vastità, insomma, della mappa che era tutta in memoria, e soprattutto per la colonna sonora polifonica, insomma, che faceva un po' la differenza anche questa, insomma. E devo dire che il motivo per cui oggi Pitfall 2 è al primo posto è proprio una questione affettiva, cioè diciamo che non posso dire che è il più bello tra tutti quelli che ho elencato o tra quelli che ho lasciato fuori, è proprio un rapporto d'affetto che ho con questo gioco, legato al fatto che comunque è il primo gioco che ho finito in tutta la mia vita, e vabbè, perché allora era anche difficile che c'erano giochi che si finivano, perché a volte insomma la maggior parte dei videogame era vai avanti nel livello fino a che diventa più difficile e fino a che non muori, quindi lo scopo dei videogiochi negli anni 70 alla fine era quello di fare punteggio più che di fare una storia, e invece questo c'aveva anche un, vedi, c'aveva un finale, insomma tutto qua. Oltre al punteggio, perché sopra comunque il punteggio c'è. C'è sempre il punteggio, sì, perché vabbè potevi anche andare dritto e non raccogliere niente, quindi finivi. Cioè non è che tu quello che diciamo è la versione meno, insomma, cioè più umana di lui, che va a salvare la figlia e basta, non che si arricchisce. Esatto. Non è che dici vabbè, dato che c'è sto. No, ma poi tra l'altro, cioè nel senso, non è che tu raccogli dei bonus che ti aiutano, cioè ti danno un vantaggio, capito? Che non è che c'è la vita o c'è, che ne so, c'è appunto la salute o cose del genere. C'è soltanto il tempo che ci metti e il punteggio che accumuli. Bello, Pitfall 2, ragazzi, se vi capita, tra l'altro lo trovate anche su internet, se lo cercate lo trovate anche in versione web per Atari 2006, senza dover scaricare niente, liberamente e legalmente giocabile, insomma, quindi anche per provarlo, perché comunque secondo me un po' le cose per la curiosità di sapere un po' da dove derivano determinate cose, un po' la curiosità te deve venire, insomma, come dire, è tutto a scorrimento in parte, quindi... Vabbè, certo, la storia dei videogiochi, no? Uno impara così. Tu considera che io vengo comunque da una generazione, a me il primo videogioco che è venuto dentro casa mia era una scatoletta di legno dove ci stava il Pong dentro, capito? Quindi, cioè, se ci penso oggi mi fa pure un po' paura a quanto sono vecchio, però alla fine la cosa divertente è vedere tra me e te, che siamo due generazioni diverse, fa un elenco come questo e trovarci a discutere sulla differenza anche di stili, di tipo di giochi, di interessi, anche perché chiaramente le cose poi chiaramente sono cambiate. Oggi sono molto più compatibili a tante cose che hai messo nella tua lista, però non posso negare il fatto che io comunque ho giocato a questo, no? E non lo posso non inserirlo nella mia lista. Tutto qua. Certo, io di Pitfall ho la versione per Game Boy Color, l'ho regalato i miei all'epoca, non mi ricordo qual era, come si chiamava, insomma, mi ricordo che era complicato pure quello. Vabbè, veramente graficamente era grafica Game Boy Color, però a confronto a questa diciamo che spigneva. Sì, beh, ma certo, è molto successivo, insomma, ed era complicatissimo. Io mi ricordo ci ho giocato un bel po' di volte, però una certa morivo male, cioè era veramente bastardo come gioco, quindi penso che in generale i Pitfall siano stati sempre belli tosti. Ah. E l'altro, proprio ieri sulla Live SNES, siccome stavamo alla P, abbiamo fatto quello che vedi qua di lato, Pitfall The Mayan Adventure. Ah sì, va bene. Che sì, era graficamente molto notevole, onestamente. Lui faceva un sacco di movimenti, che ne so, sbatteva addosso al muro, era rimbambito e cascava a terra, c'era un sacco di animazioni di questo personaggio. Diciamo, non riuscii a capire bene dove dovevi andare, onestamente. Un platform un po' così che ti ci perdevi, però ha delle animazioni quasi cartunesche, in verità, molto ben fatte. L'abbiamo visto proprio ieri questo Pitfall qua. Viene considerato un po' apocrifo. Tra l'altro, una cosa che volevo dire, è l'ultima, è proprio su una cosa che abbiamo detto prima. Questo gioco c'ha i checkpoint, incredibile, se tu ci pensi. Ah, vedi, vedi. Se no, stiamo parlando dell'Atari 2006, cioè, quindi stiamo parlando proprio di un'epoca. Quindi quando tu morivi, se tu arrivavi in quei checkpoint, che sono delle X che trovi per terra, e praticamente lui, tu, quando muore, se vede lo sprite e viene riportato nel checkpoint e poi riparti da là, che insomma ti permette più agevolmente di finirlo che se devi ricominciare da capo. Insomma, sì, è molto umano per l'epoca, esatto, avere un checkpoint. Esatto, anche perché poi è talmente lungo che vattene a fanculo, cioè, detto in francese, insomma. Cioè, se io dovessi pensare, adesso arrivato a tre quarti della mappa, muoio e devo ricominciare da capo, no. Cioè, capito? Ma mi sa che poi, tra l'altro, ti passa la voglia, almeno a me sì, poi. Sì, no, ma poi guarda, adesso non ricordo bene, potrei dire una castroneria, però secondo me non finiva neanche, cioè, nel senso, non c'avevi il numero dei morti, capito? Cioè, potevi andare avanti fino a che non ti stufavi. Ah, quindi non c'avevi tipo tre vite come No, mi sa che qua potevi andare avanti quanto ti pareva. Guarda, Vabbè, allora era molto magnanimo come gioco. Sì, magnanimo, ma comunque ci mettevi tantissimo uguale, perché ora che ti imparavi tutto, anche il percorso. Hai visto, c'è un punto in cui lui prende la cosa e vola su, e poi c'è un punto in cui in diagonale tu ti butti di sotto, ma tu non vedi dove stai a buttare, quindi tu, è una cosa che devi sapere quello che stai facendo, così a cuore ti butti, dici, ma sì, secondo me tu qui, praticamente te butti una volta, te butti due volte, te butti tre volte, fino a che non capisci dov'è il punto in cui ti devi buttare e dove devi arrivare. E lui a un certo punto lo vedi che sei anche a terra nella piattaforma, ma tu questa cosa la devi imparare. Quindi questi erano giochi in cui tu sbagliavi per muori e ripeti, esatto, insomma, try and error. Proprio quelli che odio. Lo so, però erano così. Allora è così. E quindi questa è la medaglia d'oro del buon Simone. E adesso passiamo alla mia medaglia d'oro, ma tanto a sapere, insomma. Diciamo, l'ho detto tipo 740 miliardi di volte, sia in live, nei video, su Telegram, dal vivo, ovunque. La mia medaglia d'oro, gioco che ancora, dopo una vita praticamente, non è stato superato. Ancora non c'è nessun gioco che supera questo per me, anche se il finale è una merda, è Monkey Island 2, ovviamente per Amiga, ovviamente, è il mio vero grande amore, questo qua è il mio amore della vita, e parte la PlayStation, Monkey Island 2, Amiga, parte la PlayStation. Che dire, ragazzi, Monkey Island 2, tanto lo conoscete tutti, credo l'avete giocato veramente tutti, io di questo gioco non lo considero capolavoro, però, ecco. Anche se lo metto al primo posto, non è un capolavoro, perché il finale è una merda e sono rimasta malissimo. Io praticamente Monkey Island, il primo, è stato il primo gioco, uno dei primi giochi che ho iniziato a giocare. Avevo 5 anni, questa pure è una cosa, il mio aneddoto ve l'ho già raccontato tante volte. Ho giocato a Monkey Island, che avevo 5 anni, su Amiga, insieme a mia sorella ha 10 anni più di me. E quindi io non ancora facevo molta fatica a leggere, perché avevo iniziato a leggicchiare, ma molto poco. E quindi lei mi leggeva tutto, quindi noi giocavamo insieme a Monkey Island il primo, e lei mi leggeva tutti i dialoghi e ragionavamo insieme su come andare avanti, e da lì io mi sono appassionata ai videogiochi, quindi Galeotto fu Monkey Island, quindi io sono molto legata a Monkey Island perché è stato veramente il mio primo gioco ed è stato un amore, veramente un grande amore, è stata la mia prima avventura grafica. E io col tempo ho scoperto che questo era un genere, cioè io avevo anche Indiana Jones, quello lì, The Last Crusade, che adoro tantissimo, sempre su Amiga, ma anni dopo ho capito che questo era un genere di gioco e si chiamavano avventure grafiche. Io quando ero piccola non sapevo che questo erano un genere. Monkey Island, cioè per me erano Monkey Island e Indiana Jones. Vabbè, non avresti potuto saperlo. Non erano avventure grafiche, capisci? Una cosa che ho imparato. Grazie mille a The Loser Axel per essere diventato follower, grazie mille, grazie di cuore, benvenuto. E quindi io l'ho imparato veramente dopo, tanti anni dopo, e ho scoperto un mondo che ce n'erano tante. Ma allora non c'è solo Monkey Island e Indiana Jones, esistono tantissime avventure, grazie, grazie, grazie mille, capito? Cioè, che bello, mi si è aperto un mondo quando l'ho scoperto. Subito dopo il primo Monkey Island abbiamo preso Monkey Island 2, follower, sì. E praticamente io ho amato il primo, ma quando ho visto la grafica del secondo, le musiche del secondo, Largo la Grande, io adoro Largo la Grande, è un personaggio che adoro da morire proprio, da sempre. Tutti mi chiedono, ma perché Largo? È perché mi piace, non lo so, perché è il classico bastardo, braccio destro del cattivone, che però poi in verità è un po' caga sotto, poi c'è una musica sua che è meravigliosa. E mi è sempre piaciuto come personaggio, quindi per me questo è veramente il gioco più bello in assoluto, e lo so a memoria, ogni tot tempo ci rigioco. Ho giocato anche alla versione, come si chiama, non è una remastered, come sei, una, come si chiama quella versione brutta che hanno rifatto? Una remastered, come si chiama? No, so, non c'ho idea. Vabbè, qua roba brutta, insomma. Ah sì, no, remake, sì. Beh, è una remastered. Comunque sì, una remastered. Ho giocato anche a quella versione, però pianto dentro, insomma, perché era veramente inguardabile per i miei gusti. Anche il primo l'ho giocato così, però no, cioè, voi datemi i pixel tutta la vita e... Special Edition, grazie. Vabbè, comunque potevi splittare. E quindi questo qua... Gli enigmi, la storia, Guybrush, tutte le cazzate che fa, le cose che dice. Alcuni enigmi sono no sense, sì, infatti mi ricordo che all'epoca io e mia sorella ci eravamo bloccati qualche volta e chiamavamo un tipo che conosceva lei a volte a casa per chiedergli ma come faccio ad andare avanti a sto pezzo. E mi ricordo che io con mia sorella non ero mai riuscita a finirlo, perché arrivavamo al castello di LeChuck, arrivavamo al portone immenso e non riuscivamo a superarlo in nessun modo. Una volta viene mio cognato a casa, la mia amica ancora funziona tuttora, avete visto, e praticamente gli dico, senti, giochiamo Monkey Island insieme, magari tu riesci a fare quel pezzo che io e mia sorella non ci riusciamo. La mia amica non salva più da tempo, non so perché si sarà rovinato qualche cosa, quindi l'abbiamo dovuto giocare tutto in un pomeriggio, e lui in 3 nanosecondi è riuscito a vedere una porticina nel mega portone, e io e mia sorella siamo rimaste tipo scioccate, perché non ci siamo mai riuscite a vedere sta minchia di porticina in anni e anni che ci abbiamo provato, perché poi l'abbiamo riniziato tante volte perché ci piaceva e l'abbiamo rigiocato all'infinito. E quindi poi da lì abbiamo dovuto fare tutto il pezzo finale, non potevamo salvare, e insomma l'abbiamo finito. E sono rimasta malissimo, perché il finale non mi è piaciuto proprio. Cioè, è un po' strano il finale, in effetti. Brutto. Cioè, dopo tanti anni che non c'ero mai riuscita a finirla, a finirlo, noi tre vediamo sto finale e rimaniamo tutti e tre un po' così, un po' perplessi, un po' male. E però per il resto... per me è veramente la storia dei videogiochi, è tutto, è veramente tutto, e per ora non è mai stato superato, onestamente. Per quanto, ripeto, anche abbia degli enigmi, c'è il problema, vabbè, si sa, insomma, della Monkey Ranch, che in italiano non c'ha senso quando devi usare JoJo the Monkey, perché nella traduzione non ha senso, quindi anche lì è stato fatto un po' a culo con usa tutto con tutto, perché non aveva senso per poterci arrivare in italiano, quindi lì c'è stato un problema con la traduzione, con il gioco di parole, diciamo. Però a parte questo rimane secondo me bellissimo, e soprattutto adoro la pixel, la grafica, insomma. Non è pixel art all'epoca, questo era i pixel, come sono fatti, la parte artistica, tutto quanto nel mio cuore per sempre proprio. Sì, vabbè, poi considera che era, cioè, nel senso, vabbè, sua amica rendeva tanto, però allora erano uscite già le schede VGA 256 colori su PC, quindi già quel gioco segnava proprio un po' la morte dell'Amiga, cioè da un certo punto di vista, rispetto alla più prestanti grafica, cioè grafiche, comunque potenzialità del PC, che ovviamente c'era questi sfondali che erano tutti digitalizzati, tutti dipinti a mano e digitalizzati, e quindi ovviamente la differenza tra Amiga e versione PC era abissale da un certo punto di vista. Purtroppo bisogna dirlo che insomma è stato un po' l'inizio, diciamo, dell'inizio di un declino su un gioco che era comunque meraviglioso, che ci ha fatto divertire tantissimo, e che io non l'ho inserito, l'ho detto a Debora, non ho inserito nell'uno, io avrei inserito l'uno sempre per una ragione affettiva, chiaramente il 2 è superiore all'1, però secondo me anche il primo è fondamentale, perché anche lì è l'inizio, cioè nel senso è comunque l'inizio di un cammino, e però insomma diciamo che il 2 è sicuramente superiore, insomma. Sì, ma di tanto a mio avviso. Allora, Solfo mi chiede perché non mi è piaciuto il finale. Vabbè, diciamo che sto spoilerando. Se dico il finale, spoilero? Sì, no, non lo dire, non il finale. Diciamo una cosa. Non lo dico. Che il finale... Posso dire che è spiazzante il finale. Cioè, il finale, secondo me, non è brutto. Cioè, è disorientante. Cioè, nel senso... Sì, è spiazzante. Perché io ho visto tante persone finirlo e dire... cioè, capito? Ma perché? Cioè, cosa... E basta, cioè non puoi dire che è un finale brutto, secondo me. Però tra l'altro l'ultimo Monkey Island, questo che è uscito, riprende, no, da lì, cioè riparte un po' da quel riparte finale, riparte da lì, okay. Sì. Anche se per me fa schifo, però questo è un altro discorso. Però sì, riparte da lì, però a me proprio questa uscita finale così, boh, non lo so, mi sembra un po' buttata lì, non lo so, mi sembra proprio fuori dal tutto il resto del contesto. Secondo me tutta l'ultima, la spiegazione è brutta, non lo so, boh. Tutta l'ultima parte di Monkey Island 2 è un po' stracinata, secondo me, cioè, sì, senso, da quando stai sotto dei tunnel, dei fogni, esatto, da quando stai nei tunnel in poi, lì è un po' tutto un po' stracinato, e lo sai, tante volte quando lo rigioco, quando arrivo lì smetto, non lo rifaccio il pezzo del tunnel con il finale, arrivo lì, basta, lo perché c'è il trauma, perché dietro è il pezzo che secondo me inizia a svaccare. Poi Astolfo dice Galeotto lo fu anche per me il primo, sì anche a me il primo è stato il mio primo videogioco praticamente, quindi Galeotto anche per me Monkey Island. Comunque Newpick dice sei un traitor, e invece ci hai messo il sequel sbagliato al primo posto, traitor, così ti dice. Non so di che parla, quindi faccio finta. Simone invece dice finisci Monkey Island 2 e dici e quindi, esatto, è il mio classico e quindi, e quindi ci rimani male, insomma. Però ripeto, per me io voglio assolutamente, ancora non ce l'ho, perché fanno dei prezzi non umani, però un giorno lo avrò, la versione Amiga in scatolata, io adoro i box, quindi lo voglio completo, messo bene per Amiga, e praticamente quando morirò io voglio essere cremata, lo metteranno nella bara con me, questo è difficile che scenderanno i prezzi di Monkey Island per Amiga, secondo me non scenderanno mai, no. Devo trovare, sai, un mercatino un vecchietto che non sa il vero valore, me lo dà 5 euro così. Ti deve di veramente culo, una cosa te del deve genere, di culo, insomma, sì, perché comunque oggi non scenderai, difficilmente riesci. Poi oggi i collezionisti se lo fanno veramente pagare, più passa il tempo e più peggiorerà sta cosa, purtroppo. Sì, però sì, devo essere, capito, bruciata insieme a lui. Va bene. Me lo devo portare nell'aldilà. Che bello, cioè un oggetto che vale tipo centinaia di euro bruciato. Me lo porto così, che diventa cenere insieme a me, vedi, che bei momenti. Mamma mia, che romanticismo, mi sono venuti i brividi. Va bene ragazzi, è l'una, io quindi lascio andare Simone a dormire, anche voi, e niente, io vi ringrazio di cuore di essere stati tanti qui con noi a sentire la nostra top 10, che è stata assolutamente differente, quindi cosa molto interessante, che non c'era neanche un titolo in comune. Questa cosa è stata molto carina a mio avviso, perché così due punti di vista assolutamente differenti, anche se poi abbiamo trovato comunque delle cose che ci hanno poi, mentre commentavamo, insomma, sì, ci hanno comunque unito, certo. E niente, quindi domani sera mi raccomando, sempre alle 9:30 invece io sarò ospite su Runtime Radio, cercherò, se ci riesco, di farla in contemporanea anche su qui sul canale, e insieme al buon Simone, scusate, lui intervisterà uno sviluppatore italiano di un JRPG che io sto giocando un gioco di ruolo, insomma, che io sto giocando in questi giorni, quindi domani sarà ospite di Simone, questo sviluppatore italiano, e ci sarò anch'io, quindi domani sera altra live ozza. Ok, raccomando, quindi tutti su Runtime Radio, e grazie mille a Simone per aver partecipato qui con me a questa top 10. Ciao, grazie, spero che vi siate divertiti. Sì, purtroppo noi ci dilunghiamo, ma se succederanno altre live, così succederà che ci dilungheremo ancora. Quindi sì, perché noi ci abbiamo un po' di chiacchiere. Sì, sì. E ringrazio per la donazione, grazie di cuore, grazie mille per il ride, grazie mille che è diventato follower, grazie mille che si è iscritto, grazie di cuore veramente a tutti, e vi aspettiamo anche su Telegram, tanto c'è anche Simone su Telegram, quindi vi aspettiamo su Telegram per parlare di videogiochi. Buonanotte ragazzi e alla prossima. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.